Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Voglio dire che il Parenzio lo raffiguro in un faccia da culo da cane da caccia, mentre invece lei, signor Giuseppe, è, salvando sua madre, perché so che sarai di una madre onorabilissima, è un figlio di tre puttane. Io la trasmissione la riassumo in questo. Pensate agli agenti di commercio quando alle 6:30 finalmente, con le palle sudate, le ascelle che puzzano, la forfora sulla giacca, le scarpe sporche di fango, salgono in automobile, accendono la macchina, accendono la radio, mettono la zanzara, fanno una bella scoreggia silenziosa e partono verso casa, pensando che in fin dei conti la vita non fa poi così schifo. Quello a cui aspirano oggi i gay è di essere uguali, ecco perché vogliono il matrimonio. Cosa c'è peggio del matrimonio? Il matrimonio è tecnicamente un'inculata ed è per questo che loro vogliono il matrimonio. Perché da quel punto di vista vogliono avere la stessa cosa che hanno gli eterosessuali, che la patiscono. Ragazzi, good night everybody, buonasera a tutti, caro Parenzo. Beh, buonasera, buonasera compagno, amico, buonasera compagno. Amico mio, a buonasera. Me la cosa che mi fa più incazzare di questa vicenda delle statue, a parte ancora che abbiamo iniziato con buonasera, che è una cosa patetica. Ancora con le statue stiamo. Non so perché abbiamo iniziato con buonasera, cioè perché... Buonasera, non, perché ogni tanto un po' di educazione. Non capisco perché mi è venuta in mente questa cosa. Un po' di educazione ogni tanto allora, piace le statue, a tutti. Le statue coperte, abbiamo già detto ieri la vergogna, lo scandalo, lo schifo da parte mia, una cosa ridicola, ma la cosa che mi fa più incazzare di questa vicenda è lo scaricabarile. Chiaro, cioè, questo è il possibile punto, mai, possibile mai che non esca fuori un colpevole di questa vicenda? E poi voi ci credete che Renzi e Franceschini, stiamo parlando del Presidente del Consiglio e del Ministro dei Beni Culturali, non sapessero nulla, sì, di questa vicenda? Io questo ci credo. Ah, tu credi che non sapessero ma nulla? Sì, perché è proprio un caso di insipienza totale, classico caso della burocrazia però, italiana, no, ma non dei è funzionari, così. Funzionarietti, personaggetti. Quando viene il capo di uno Stato importante come l'Iran, e la visita viene curata nei minimi dettagli. Ah, tu dici? Ma secondo me sì, e se ma non lo fai... Ma questo è il paese che ha fatto fare il funerale in casa Monica, ragazzi, ma di che parliamo? Sì, vabbè, d'accordo, ma questo per è un carità. Paese in cui c'era un signore che ieri girava con un fucile finto. Vabbè, ma quello è, che c'entra? Quello è un regalo. Questo è lo stesso paese che gira con un fucile finto di plastica. E vabbè, poi... perché uno non può comprare un fucile per il figlio, ma certo, non ho capito. Ma tutta la polizia, l'Interpol, criminal punk, lo ricercava, salito su un treno. Questo con è un ridicolo. Questo è la cosa. Il paese, questo qua. Che dice, si muovono in Ox per un signore che ha semplicemente comprato un fucile a figlio. Ha comprato da Toys o non so dove un fucile di plastica per il bambino. Questo è il paese. E allora coprite le statue, coprite tutto, andiamo a casa, chiudiamo qua la trasmissione. Ma perché chiudiamo amico? La Confindustria. Basta, non ha neanche senso leggere il presidente. Chiudiamo tutto, però partiamo da noi, chiudiamo noi. Ma la perché? Radio, la radio 24. Ma perché dobbiamo Alino chiudere noi? Milan la mattina, ma perché Barizoni, dobbiamo chiudere? Ma Minoli, ma perché chiudi tutto subito, perché non ha più senso niente. Ma perché per due stronzi? Perché se un signore può girare con un fucile in plastica e chiudere una stazione la più importante d'Italia, sì, e polizia, carabinieri, Nox, sì, FBI cercano questo signore che intanto era in treno ad Anagnina, Non a Bologna, ad Anagnina. Vabbè, non so neanche cos'è Anagnina. Sale sul treno, lo trovano a casa, lo fermano. Il giorno dopo lo intervistano e lui stesso dice: avrei potuto uccidere 40 persone. Dice: come 40 persone, amico mio? Sì, e, non lo fa. E poi coprono le statue. Nessuno, che non ha più senso nulla. Chiudi, ma partiamo da noi. Chiudiamo, iniziamo da noi. Noi, poi chiuda Barisoni, poi chiuda il giornale, chiuda la Confindustria, chiudono i sindacati. Chiudiamo, fermiamoci tutti per un attimo. Perché non ha più senso. Ma io nulla. Non mi voglio fermare. Sì, non è, ogni cosa che dici non ha senso. Ferma tutto. Vabbè, comunque, la vergogna vera è che non esce fuori un colpevole di questa vicenda, che però è a Palazzo Chigi, amico mio. Perché la visita da chi cazzo è organizzata? A Palazzo Chigi, Franceschini, dai. Non era informato né il Presidente del Consiglio né il sottoscritto di quella scelta di coprire le statue. Ci sarebbero stati facilmente altri modi per non andare contro la sensibilità di un ospite straniero così importante senza questa incomprensibile scelta di coprire le statue. Però se il Ministro dei Beni Culturali non sa che le statue all'interno di un museo per decisione del protocollo, del cerimoniale, vengono coperte, beh, qualche responsabilità ce l'avrai anche tu, signor Franceschini, o no? Se non sai, se non sai, sei colpevole anche tu. Vabbè, ragazzi, abbiamo fatto una figura di merda in tutto il mondo, questo è il fatto, una figura di merda. Tutti i giornali stranieri che non perdono occasione per sparare a zero sull'Italia, naturalmente, figuriamoci, le statue coperte, ma quando mai succede, in nessun paese succede una vergogna di questo tipo? Lasciamo perdere i discorsi sulla sottomissione, proprio una mentalità, cioè una mentalità, non dobbiamo urtare la sensibilità del presidente iraniano, ma chi se ne frega, questa è roba nostra, il nostro patrimonio culturale, la nostra vita, dai, su, la nostra cultura, la nostra storia, tutto. Oh, Maroni naturalmente contro il governo. Poi c'è questo il solito gioco, no? Comunque Maroni ha utilizzato un'espressione. Ha acceso lì il campanile, lì come si chiama? Il pirellone. Ha acceso il pirellone con scritto Family Day. Comunque, senti che parole usa, molto, molto sintetiche, molto stringenti. Ci dà un commento sulla faccenda delle statue, Musei Capitolini, cosa ne pensa? Una vera figura di merda. Ok. Internazionale. Ovviamente la Lega all'attacco, come è normale, la Lega all'attacco. Signor Calderoli, senti. Siamo proprio una repubblica delle banane. Per poter avere in cambio delle nostre padelle un po' di petrolio, arriviamo a mettere il tanga alle nostre statue o a cancellare la nostra identità e la nostra storia, e ancor di più si accoglie con tutti gli onori un leader di un paese che chiede la soppressione di Israele proprio nella giornata della memoria. Però ragazzi, sentite questo signore qui, poi dice che me la prendo sempre. Calderoli non dovrebbe parlare di banane, comunque lo dico con, come dire, con rispetto. Vabbè, ma in questo caso è il gioco della politica, no? La Lega, no, ma dico, contro non dovrebbe questa parlare di banane, Calderoli, perché? Visti perché? Il passato. Perché? Beh, aveva fatto quella maglietta? No, le offese che fece, le banane, le cose. In generale, meglio non parlare di banane. Allora, vi faccio ascoltare il solito Livio Fanzaga, il solito Don Livio Fanzaga, Radio Maria, radio molto ascoltata, radio, insomma, molto molto cattolica, eccetera, eccetera. Allora, signor Livio Fanzaga, incredibilmente, ma non, in realtà non è troppo incredibile, cioè, non se la prende per questa roba qua. E dice, beh, in Iran almeno non distruggono le chiese, ma ti dovresti vergognare, Fanzaga, di questa cosa. Ti dovresti vergognare. Pazzesco. State presente che in Iran comunque il cristianesimo non è che se la passi bene, eh? Le persecuzioni sono condannate, chi si converte all'Islam, al cristianesimo è condannato a morte. Però, insomma, diciamo che perlomeno non distruggono le chiese. Ma ti rendi conto o no? Ti rendi conto? Dice, poi dice, non hanno coperto le croci ma le statue. Cioè, se coprivano le croci era peggio. Ma dico, ma non si vergogna Fanzaga quando dice queste cose? Cioè, non si vergogna? No, perché lui la pensa come te, Parenzo. Perché anche tu pensi che ci sia la sensibilità culturale da rispettare. Dunque, bisognava rispettare questo presidente iraniano che veniva qua coprendo le statue. Perché ieri, poi oggi forse hai cambiato idea, ieri eri molto morbido su questo. No, io non hai capito purtroppo, perché non ti lavi le orecchie. Non sei chiaro, oltre non sei chiaro. Non sei altre chiaro. Parti del corpo, come non sappiamo, sei chiaro, senza Fanzaga. La carta igienica. Fanzaga. Ho detto un'altra cosa. Vabbè, ma dopo io la spieghi. Intanto Fanzaga. Intanto Fanzaga. Da questo punto di vista non è che mi, che mi scandalizzo più di tanto se le statue sono state coperte, tanto adesso vengono già scoperte, insomma, voglio dire, è stata a mio parere una... Si è ascoltata una richiesta che ci hanno fatto. Non sono state coperte le croci o i simboli del cristianesimo, sono stati coperti, diciamo così, dei capolavori dell'antichità classica. Vabbè, cosa vuoi fare? Ma ti rendi conto, Fanzaga, che cos'è? Allora, ragazzi, al di là di Fanzaga, vabbè, che è una vergogna, perché naturalmente in questo caso, no, il cristiano, il cattolico, l'ultracattolico è... ha qualche cosa in comune con quel signore col turbante lì, col signore col turbante Roani o Roani, come diavolo si chiama. Guani. Allora, io direi una cosa, mentre abbiamo già in linea, se non cade la linea, Vittorio Sgarbi, che è in macchina. Bene, molto bene. Che ha avvelenato su questa cosa, giustamente, chiede le dimissioni di tutti se non si fa chiarezza. Direi ai nostri ascoltatori di fare un'opera di bene, che è questo. Io vi do un numero di telefono, che è il cerimoniale, anzi il centralino di Palazzo Chigi. Centralino di Palazzo Chigi, 06... Appuntatevi bene questo numero, 06 67 791, perché siccome se non ce lo dicono loro, cerchiamo di farcelo dire noi. 06 06 67 791 è il centralino di Palazzo Chigi, e vi fate passare il cerimoniale e poi dite: noi siamo semplici cittadini e vogliamo sapere il nome del coglione, potete utilizzare anche un'altra parola, che ha coperto le statue per rispettare il presidente iraniano. Vogliamo sapere il nome del signore del cerimoniale. Chiamate Palazzo Chigi, poi vi fate passare il cerimoniale, che tanto ve lo passano, 06 67 791, e cercate di, non dico di insultare, insomma, fate quello che volete, poi mandateci le telefonate. Un attimo solo, poi Vittorio Sgarbi. Traffico, veio chi là, vero chi... La Zanzara. Vittorio! Eccolo qua. Aspetta, parla bene, leva il viva voce, eccolo quello che hai. Allora, quanto sei incazzato per questa storia? Ma sai, più che altro sono tormentato, perché mi hanno chiamato tutte le televisioni, anche dall'America, per questa cosa, per cui... Abbiamo fatto che cosa? Una figura di merda, diciamo la verità. Certo, non mi aspettavo una valanga come questa. Pensa che ieri, sì, prima che tu mi chiamassi, Radio Radicale ha detto: beh, non ne ha parlato nessun giornale, è una cosa che ci stiamo dicendo. No, ma infatti noi ti abbiamo chiamato ieri, poi non si sentiva una mazza, non abbiamo potuto mettere in onda nulla. Però oggi ci sono alcune cose nuove, però. Innanzitutto, fuori nomi del responsabile, o no? Sì, questo è fondamentale, ma tra quelli potrebbe esserci lo stesso Renzi. In generale, la responsabilità, come sempre, è del Ministero degli Interni, perché il tutelato non sempre sa cosa fa la tutela per lui. Quindi, mentre il Ministro dei Beni Culturali non c'entra niente, perché neanche lo consulta, no? Certo. La sicurezza, per cui sposti una cosa, metti a posto un'altra cosa. Ah, alla fine Alfano, secondo te? Alfano è quello più sospettabile. L'altro, poi, che è un furbo, probabilmente lo sapeva, però potrebbe anche dire che non lo sapeva, quindi deve dare la prova di cacciare uno per ignoranza manifesta, perché la cosa più grave è l'offesa al presidente Rouhani. Cioè, tu perché non puoi confondere, scusa, tu ti ricordi Palmira? Sì. Quando sì, c'era Assad anche su Palmira, che adesso è dell'ISIS, tutti potevano andare a vedere le rovine di Palmira. Sì. È arrivato l'ISIS e le ha bombardate. Allora, il livello culturale di un persiano è altissimo, e ha una civiltà millenaria come la nostra, che non sente come un pericolo, perché è morta. Giove è morto, Venere è morta. E allora? Non puoi confondere la Venere Capitolina con Cicciolina. Allora, tu poni il problema di censurare delle immagini viventi o provocanti oggi, ma non la storia. E allora loro hanno, come dicevo ieri, a Persepoli, un patrimonio artistico che, come il nostro, che nessuno copre, è scoperto. Allora non puoi pensare di coprire in Italia. Allora che cos'è? Ignoranza? Copre. Che cos'è? Ignoranza? Cos'è? Sì, è una presunzione sbagliata. Dicevo ieri, una forma di rispetto legato alla superbia, di dire: tanto noi siamo talmente al di sopra di questi rozzi e gli facciamo questo servizio. Ma è un'umiliazione più che una superiorità, perché loro sono pari a noi e colti come noi. E intanto, scusami, per non sapere, ne legge né scrive, intanto facciamo fuori Alfano, dici tu, no? Beh, Alfano, comunque, qualcuno che ha stabilito questa cosa non comunicandola. Dall'altra parte, anche in Italia, avendo una cosa di quel genere, non è che se il Papa, che non è meno religioso di Rouhani, vede la Venere di Milo, la Venere Capitolina, gliela coprono. È un assurdo che sottovaluta il titolare di quella gentilezza, il quale si vede attribuita una mentalità da barbaro che non ha. Beh, insomma, sulla mentalità da barbari degli iraniani in generale, dell'Islam in particolare. Sono coltissimi. Sì, saranno coltissimi, quello che vuoi, ma è una cultura. Però l'Iran non è un modello. L'Italia, allora, tu ricorderai che qualche anno fa al tempo di Berlusconi, esposero nella sala stampa di Palazzo Chigi la verità del Tiepolo, che aveva le tette scoperte. Qualcuno ha coperto la tetta perché non apparisse dietro Berlusconi. Quindi questa è una cosa. Senti, ma tu che sei un esperto, ma perché una cosa che mi tormenta sempre, di cosa si poteva scandalizzare il signor presidente iraniano? Cioè dei piselli, di che cosa? Dei piselli del nudo? Loro di hanno pensato che, perché misurano la sua mente, che è una mente comunque colta e aperta, con quella dell'ISIS. Cioè la stessa Palmira fino a 5 anni fa si poteva vedere tranquillamente. Oggi, però scusami, chi si deve dimettere? Io voglio capire, qualcuno si dovrà dimettere. Cioè, quello che di là aver dato l'ordine. Se riesce a far capire che Renzi non poteva non sapere, si deve dimettere anche Renzi. Altrimenti il responsabile della decisione, che può essere il capo della sicurezza o del cerimoniale, deve andarsene. Perché ha umiliato l'Italia e anche il Presidente. Ha umiliato l'Italia, vabbè, poi tu dici anche il presidente, in realtà il presidente è salito sopra questa polemica, il presidente iraniano, dicendo l'Italia ha rispettato, è un paese rispettoso delle tradizioni, eccetera, eccetera. Sì, ma ho detto in modo molto ambiguo, perché voleva dire non mi ha fatto vedere Cicciolina. Comunque, Vittorio, è una vergogna. Che c'entra Cicciolina? Non ho capito, perché fai il paragone? Perché tu puoi chiedere che vengano coperte delle immagini provocatorie del tempo nostro. Aspetta, avvicinati di più, se no non si capisce. Una pubblicità, un manifesto di un film pornografico, non puoi chiedere di censurare la storia, ce l'hanno loro uguale, perché non censurano Persepoli? La follia è che loro sono più tolleranti a casa loro, verso la loro storia, di quanto noi siamo con la nostra storia da noi. Mamma mia, ragazzi, veramente una roba ridicola. È un cortocircuito impressionante. D'altra parte, torniamo oltre al caso di Berlusconi. Sì, ma possibile che nessuno si assuma la responsabilità? È sempre così, cerimoniale di Palazzo Chigi. Qualcuno che dica, sì, ho deciso io materialmente di dare l'ordine a qualcuno che poi materialmente... Ma non si troverà mai responsabile. Ma ho capito, allora si dimetta Renzi, si dimetta Franceschini, qualche cosa deve succedere. Finirà come quel funzionario della RAI che è stato licenziato oggi e ha pagato per tutti, non si sa perché. Per la storia del ritardo e dell'anticipo del Capodanno. Sì. Allora, comunque, io dico una cosa, ragazzi, ma si hanno licenziato Azzolini, uno della RAI. Male. Il capo dell'intrattenimento. Bisogna candidarlo nella lista della Zanzara, Azzolini, subito. No, ma il problema, ti rendi conto, la RAI licenzia uno chiaramente una prassi quella di anticipare. Ma lasciamo perdere questa cosa. Io veramente la cosa che mi dà più fastidio è il solito scarico di responsabilità. Io voglio sapere materialmente chi ha detto mettete quei pannelli, che tra l'altro devono essere stati pure fatti, devono essere pure costati. Cioè qualcuno li ha costruiti in anticipo, non è che li hanno trovati lì per caso ai Musei Capitolini, no? Cioè, è questo il punto. Senti, tu sei insultato da un sacco di omosessuali per la frase che hai detto, ho visto sul tuo profilo Facebook, la frase che hai detto che era un bambino. Ma ci andrai al Family la Day, famiglia intanto. È un padre e una madre, e una madre non può essere uno con la barba o i baffi, no? Tu hai detto. Sì, ma ho anche mostrato l'immagine della madre con la barba. I bassi, quindi. Ma sai che sai che cosa ti hanno scritto? Ti hanno scritto sentire Sgarbi che fa la morale sul concetto di famiglia quando il suo ruolo di padre si è fermato all'uscita del seme. È un po' come avere a che fare con un vegano che coltiva piante carnivore. Ma io gli rispondo che disse colui che paga le donne per farci sesso e che non si è mai sposato in vita sua. Dice: non puoi parlare di famiglia tu che odi la famiglia. Questo è il punto. Infatti, odio la famiglia, quindi. Io sono perfettamente d'accordo. Cioè, una merda la famiglia, cos'è? Omosessuali. È il luogo dove capita qualunque errore. Il matrimonio? Il matrimonio è uno schifo. Il matrimonio è un delitto, è un crimine. Quindi. Un crimine assoluto. Il matrimonio è letteralmente un'inculata, quindi è chiaro che gli piace per questo. Cioè, tu dici, il matrimonio, la tua frase simbolo è il matrimonio inizia quando finisce, praticamente. Certo, quando finisce, poi vedranno quando dovranno lasciare la casa, perché va l'altro coniuge, il proprietario se la vede espropriata sarà contentissimo. Vedrai che fra un po' non vorranno più il matrimonio. Come non vogliono gli omosessuali francesi. Francesi, cioè il capo della no, uno dei leader delle femministe francesi dice è contro il matrimonio e l'adozione. Vabbè, ciao Vittorio, a presto, ciao. Ragazzi, ci sentiamo alle 19:15, apriamo i microfoni. Ormai è tutto degradato ormai. tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24. Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non, in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che avevamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! La Zanzara. Se avessi un locale, faccio entrare, far rientrare chi cazzo mi pare piace a me, hai capito? Parenzo cazzone ignorante, anzi ti dirò di più, se avessi un locale far rientrare tutti, bambini, animali, tranne che te, come entri se un passo dentro, via, un calcio nel culo e fuori. Maurizio Crozza sulle statue coperte, l'ultima vergogna italiana. E oggi è arrivato il presidente dell'Iran, che proprio incarna il ventunesimo secolo. Lo rappresenta così tanto che oggi ci ha fatto coprire con degli scatoloni bianchi delle statue romane di 2000 anni fa, che sono copie di statue greche di 2600 anni fa, perché rappresentavano dei corpi nudi. Cioè praticamente la Venere Capitolina ce l'ha fatta diventare una scarpiera dell'Ikea. Oggi un signore con un asciugamano in testa ci ha fatto coprire delle statue di 2000 anni fa perché si sentiva offeso da due zizze di marmo di 2600 anni fa. Rouhani non può vedere il corpo umano nudo, gli dà fastidio. Gli dà così fastidio che il bidet Rouhani se lo fa al buio, se no si offende da solo. Mi vedo il culo che mi imbarazzo da solo. Questa è geniale, devo dire la verità. Cioè, si offende da solo a vedersi l'uccello, il sedere, eccetera. Stupendo, stupendo. Senti, senti ancora Crozza, va, che è definitivo su questa cosa. Definitivo. Poi, per carità, io rispetto quelli che dicono per gli affari si fa tutto, ma il punto non è questo, perché non è che cambiavano gli affari, non è che, no, pare che addirittura qualcuno fosse preoccupato dal fatto che il signor Rouhani è considerato un po' il Kennedy dell'Iran, no? Cioè poi un riformista, eccetera. Beh, allora, no, adesso, ma no, ma per dire, no, uno, no, ma è un modo di dire odioso, sì, cioè, capito, terrificante, però, però cioè, e allora dice non mettiamolo in difficoltà, magari qualcuno gli fa la foto accanto a una foto con a una statua con l'uccello o con le zinne di fuori in patria. E se lo cucinano, ma non è questa la cosa, è proprio la nostra imbecillità. E io dico sempre fuori il nome, fuori il nome, fuori il responsabile, che secondo me è uno solo, cioè perché o lo sai e stai mentendo, che l'hai detto tu, che l'hai fatta tu questa roba qui, oppure lo dovevi sapere. E sto parlando dell'uomo alla presidenza del Consiglio, ancora Crozza. Questo signore qua, Giova, indipendentemente dalle sue paturnie, non è mica un profugo, È uno che sta portando 17 miliardi di investimenti per le imprese italiane. 17 miliardi! E per 17 miliardi non vuoi rinnegare delle statue capitoline di marmo marcio? Ma infatti hanno fatto bene a coprire le statue. Solo che quando le hanno coperte, Giova, facendolo con gli scatoloni, sembravano delle cabine elettorali. A quel punto si è offeso Renzi. Cabine elettorali! Non dovevate farlo! Renzi che si offende di fronte alla campagna elettorale non essendo mai stato votato solo dal Parlamento, ma non dalla gente. Intanto la Ceres, quei geni della Ceres hanno ideato subito una campagna di informazione, una campagna marketing pazzesca sul web. Tra le birre siamo un monumento, cioè la foto di uno scatolone con dentro forse una una birra. Tra le birre siamo un monumento geniale. Allora, un tizio, non so perché, mi scrive dicendo: Cruciani, tu che hai i capelli che sembrano sempre non lavati, e sì, qualche volta. No, sembrano. No, ma non è vero, cioè in realtà li lavo spesso perché corro, per cui li lavo abbastanza spesso, forse più spesso di quello che vorrei. E dice: bisognerebbe farsi lo shampoo solo col bicarbonato di sodio disciolto in un bicchiere d'acqua. Cioè, lo shampoo, pensa questo qua, vuole farmi bruciare i capelli. Farsi lo shampoo solo col bicarbonato di sodio, perché i capelli restano puliti fino a 4 giorni, capito? Ed è molto ecologico. Invece di quel shampoo, dello shampoo che... no, chimico, questa roba qua. Matteo Brescia, vai, 800 24 00 24. Matteo, salve, buonasera a tutti. Dimmi. Io vorrei che circondassero gli ascoltatori, anche voi, che la Francia modificò il cerimoniale, anzi eliminò una colazione, perché lo stesso, gli stessi iraniani non volevano non solo bere il vino, ma non volevo che fosse presente il vino a tavola. Sì, non, ma io sul, non... vino, sul vino si può anche... Sì, io me ne fotterei. Allora, ma capisco, vorrei... che uno stato col vino a tavola puoi evitare. Ma le statue erano lì. Allora, cioè, non le devi mettere in quel caso, capito? È un po' diverso. Allora, cioè, il vino lo devi portare. Uno può dire, non voglio offendere quei pazzi, quello col turbante, quello con l'asciugamano, come dice Crozza, perché sono malati, diciamo la verità. Sono malati di vero. Allora, ho capito, però... sono malati. Per essere malati sono malati. No, parli, ma... per l'Italia di 17, ha ragione Crozza, milioni, no, miliardi, veramente. Meglio ancora, miliardi di euro. Allora, siccome la questione sono solo gli affari, no, però la questione, allora, è tutta lì, no, quella che finire, dicevo fai già finire, ieri. Matteo, io non capisco, Parenzo, mi sembra di capire che Matteo è a favore delle statue coperte o no? No, assolutamente no, io le voglio vedere le statue. Ma c'è chi, tutti hanno fatto vedere. Bene o male, potevano, allora, anche oscurare a Castor e Polluce, che erano proprio all'inizio del Campidoglio. No, perché molti mi hanno detto, beh, per due statue coperte, che cazzo volete? Il problema è che siamo alla vigilia di una guerra, c'è la sesta flotta nel Golfo Persico, insieme alla corazzata Clemenceau o non so quell'altro presidente francese. No, la Charles de Gaulle. La portaerei Charles de Gaulle. Hanno provato già a fare la provocazione con due motoscafi e passeranno, non riusciti a rifiutare la provocazione. Allora? Adesso c'è il povero presidente Rouhani, che ha chiesto al Papa di pregare per lui, perché tra un po' probabilmente Arabia Saudita. Vabbè, ma ragazzi, qui non è la geopolitica, ce ne fottiamo della geopolitica. Ha fatto bene, compresi americani, attaccano. Ha fatto bene o male? Abbiamo fatto bene o male a coprire quello? Se poteva rappresentare una provocazione pure per far stare a nostro agio l'ospite, va bene, dai, Andrea Verona. Dato il momento. Andrea Verona, ma che è dato il momento? Sì, dato il momento. Dai, su. Andrea, vai. Sì, ciao, ascolta, io farei una statua a chi ha coperto quelle statue, perché se stiamo parlando di 17 miliardi, sì, ma non è che se le scoprivi, questo è il punto. No, l'ipocrisia è tutta là, che tu li ricevi, li critichi perché sai che sono antichi su molte cose, però ma intanto li critica, ricevi, ma come li no? Critica, ma non è che il presidente del Consiglio, giustamente li si critica, ma no? Chi? Noi, però no, li ricevi, no, non il presidente del Consiglio. Ma come li ricevi? Fai grandi comunicati roboanti durante tutto l'anno, no? Dicendo l'Iran deve cambiare, deve diventare democratico. Ma ascolta, la maggior parte delle persone che si lamentano delle statue coperte negli ultimi 2 anni, negli ultimi 20 anni, non è mai stata in un museo, probabilmente. Sì, tra l'altro, esatto, bravo. Perché ci sono lavori, Salvini, di continuo. Un signore che punta all'istruzione di Israele, ma cosa ne sa Salvini? Bravo, per ha lui, ragione. Fuori dalla Padania è tutto uguale, sotto i neri, bravo. Sopra i norvegesi. Cosa stiamo parlando? No, non ho capito. Andrea, gente che non è mai stata in un museo, si dice, ha ragione perfettamente. Ma ha ragione perfettamente. Un branco di salami che non sanno neanche cos'è un museo, cos'è il Bernini. Chi? Ma tutti, anche quelli sul web, tutti, che dai, si indignano, che dicono non è possibile. Poi dopo gli dici: guarda, tesoro mio, gli imprenditori, dici: guarda, che questo signore qui porterà 17 miliardi di investimenti. Ma a me non me ne frega un cazzo. Le statue, compriamo le statue. Non me ne frega niente, perché il problema non è stato fatto. È una discussione ipocrita. Non è stato fatto per evitare. Non è stato fatto per evitare. Perché che saltino strambotto. Gli accordi, che saltino, ma no, gli accordi. Ma non c'è dubbio, però la questione è più larga, cioè se tu sei uno stato, inviti un signore che ma deve fare gli che investimenti. Hanno fatto bene a coprire questa statua, non l'hai ancora detto. Male, ma allora stai diversa. Da una parte e dall'altra come al solito. No, dai. Non c'è da una parte all'altra, la gente ha capito che è più complessa la questione, perché sì, tu inviti un signore. Sono due stronzi che hanno sbagliato, dai, Michele da Milano. Inviti dai. Un signore che deve fare degli investimenti qui e che ti è utile per l'Italia. Fai qualunque questo? Cosa. Ma non fai qualunque cosa. Pur di accontentarlo, come fece Berlusconi Berlusconi con la famosa tenda di Gheddafi, che anche quello, infatti, rivista con gli occhi di oggi, dice: cazzo, meglio la tenda di Gheddafi che, cioè, i profughi in Italia. È uguale. È analoga la discussione, sai perché? Perché all'epoca anch'io fui tra quelli, bisogna essere sinceri, che si scagliò contro il governo Berlusconi e quella buffonata, e anche tu eri tra quelli, dell'occupazione di Villa Panfili con, sì, quella tenda, sì, e le Amazzoni. Tutti noi dicemmo all'epoca: guarda che vergogna. Dopodiché oggi sono gli stessi che invece Gheddafi attaccano all'epoca. Renzi, che attaccano, certo, Renzi per questa è questa cosa. L'ipocrisia. No, ma quello è vero. No, in parte è uguale. Però una la cosa tenda è di un po' Gheddafi diversa. È uguale alla copertura delle statue. Identica. Solo che una fu fatta con consapevolezza, per cui costruirono quella tenda da circo grottesca. No, è un po' diverso. Ma ti ricordi le telefonate della gente che come chiamava, no, qui, che no, urlava vergogna? Però ecco, è un po' oggi diverso. Sono gli stessi che direbbero: viva la tenda di Gheddafi, qualche profugo in meno che arriva in Italia. Non è diverso manco per niente. No, è un po' diverso. È uguale. L'ipocrisia è la stessa. È un po' diverso. No, non è diverso, un po' diverso niente. Comunque andiamo a... È un po' diverso perché le statue già ci sono. Le tende è una scelta politica. È una scelta politica. Le hanno coperte perché, per rispetto. Però dicessero che è una scelta politica. Dicessero che è una scelta politica. Pur di firmare gli accordi. Dicessero che è una scelta politica. Perché qui, siccome si sono resi talmente conto della buffonata che hanno messo in piedi, appunto, è chiaro che ora impastano qualcosa. Ma dal punto di vista dell'obiettivo è uguale. Quelli non volevano i profughi e firmavano l'accordo e accettavano la tenda. E questi vogliono i soldi. Questi vogliono 17 miliardi. Silvia da Roma. Pronto? Dimmi. Volevo dire che probabilmente pensi a pensare a questa cosa dell'impacchettatura delle statue, perché ottobre scorso, in, sì, occasione della visita di uno sceicco a Firenze, fece la stessa cosa di Palazzo Vecchio. Sì, questo me lo ricordo, l'impacchettatura delle statue di Palazzo Vecchio, però esatto. Renzi magari non l'ha deciso lui in quel caso, ma il suo fido Nardella. Certo, sicuramente formalmente l'ho deciso il sindaco di Firenze e sono, mi ricordo questo episodio effettivamente dell'impacchettatura delle statue, perché non ebbe tanto clamore, però comunque... per uno sceicco, tu dici, siccome se tanto mi dà tanto è Renzi stesso che ha deciso la copertura di quelle statue, no? Ma magari è stato, ma infatti secondo me è stato sicuramente Renzi a deciderlo, ma poi al 100% lo dico, cioè, non credo che sia occupato di questo, avrai i suoi consiglieri, se non ha deciso lui, se non ha deciso lui è gravissimo, se non lo sapeva è gravissimo per il solo fatto che non lo sapesse. Cioè è gravissimo che non sia stato informato su una cosa importante che sta facendo il giro dei giornali di tutto il mondo. Ma la tenda di Gheddafi anche ha fatto il giro dei giornali di tutto il mondo. Scusi, ti faccio presente che se vai a rivedere la rassegna stampa dell'epoca. Però Berlusconi non lo sapeva, non è che disse non lo sì, sapevo. Ma l'Italia parlò di figura barbina, siamo sottostati. Fermo che c'è la pubblicità. Tu dovresti essere menato, non denunciato per abuso di potere, perché con quel cazzo di microfono fai quello che vuoi tu. La Zanzara. Che le Iene si buttano sui vegani, ragazzi, sul tema vegani che noi abbiamo aperto ormai, Parenzo, mesi e mesi fa. Allora, il tema era questo: sposeresti o no una vegana? Hanno sentito un po' di gente, ne è venuto fuori un quadro abbastanza incredibile. Ma tu sposeresti mai una vegana? No, io sono celiaco, lei è vegana e morimo di fame. Portamela, vediamo com'è e poi decidiamo. Se è buona, vegana te la sposta. Fatto. È carnivoro, ma mica è scemo. Se tua moglie dicesse: diventiamo vegani. Amore, finalmente è arrivato il momento di lasciarti. Meglio la bistecca che la moglie. No, meglio tutto, ma meno che essere vegano. Preferirei essere pure da Juve, ma non vegano. Loro hanno preferito essere malati e noi no. Se sua moglie diventasse vegana così all'improvviso, lei come reagirebbe? Se sono separato, fammi riseparare. La caccio io, no? Per amore, rinuncerebbe alle salsicce? Assolutamente no, nemmanco all'abbacchio. O diventi vegano o ti lascio. Come rispondi? Divento single. Tu sei vegano? Io non so neanche che cos'è vegano. Se mangi la carne muori, la carne ti dà vita, quindi se vuoi fare l'amore devi mangiare la bistecca, se non l'amore non la fai, bastia non si alza, guarda. Se domattina sua moglie si svegliasse e le dicesse: da oggi basta carne, divento vegano oppure ti lascio. Chi se ne frega, peggio per lei. A proposito di vegani, caro Parenzo, c'è una notizia abbastanza incredibile che viene dal Trentino Alto Adige. Un vegetariano, un matto naturalmente, ha ammazzato la madre. Un signore che peraltro è anche vegetariano, oltre che matto naturalmente. Non lo qualificherei come vegetariano, sì, direi però, semplicemente un però matto. Però sembra che dalle inchieste che stanno facendo sia venuto fuori un particolare. Senti qua questa cosa qui, Cioè questo qua ha visto della carne nel frigorifero della madre, la madre di 87 anni, e allora l'ha voluta liberare. Ma era matto. Cioè alla vista di quel cadavere, di quel pezzo di carne dentro il frigorifero, ha perso il controllo e poi la cosa è degenerata. Poi tra l'altro, prima di entrare in tribunale a Bolzano, ha fatto il segno di vittoria. Vabbè, è un matto, però io ho sempre sospettato una cosa. Che i vegani, proprio quelli estremisti, quelli che io chiamo i nazi vegani, che ho ribattezzato in questo modo, che tra l'altro è un magnifico titolo per un pamphlet, per un libro, direi. Nazi vegani oggi, sarebbe straordinario, se avessi del tempo lo farei. Qualcuno lo dovrebbe scrivere al posto mio, i nazi vegani. Ecco, i nazi vegani siano tutti potenzialmente degli assassini. Perché se tu... No, ma ascolta questa cosa. Se tu consideri quel pezzo di carne che mangi, no, o che gli altri mangiano, se tu vegano, nazi vegano, consideri quel pezzo di carne... qualcosa di sacro, nel senso qualcosa di etico, cioè di repellente da dal punto di vista di etico, vivente da tutelare, no, qualcosa vabbè, di repellente dal punto di vista etico, cioè mangiare la carne, e dunque consideri quella roba lì, la carne di un animale, qualcosa di sacro, beh, tu che la mangi diventi automaticamente un assassino, come peraltro loro dicono, e dunque meritevole di morte. Dunque potenzialmente questi nazi vegani sono tutti degli assassini. Oh, qualcuno ha cominciato a chiamare la presidenza del Consiglio per capire, sul nostro suggerimento, al centralino di Palazzo Chigi. Beh, naturalmente ti dicono rivolgiti all'ufficio stampa. Cioè, un cittadino chiama Palazzo Chigi e dice: chi è che ha dato ordine? Perché i cittadini dovrebbero chiedere chi ha dato ordine di coprire quelle statue. Magari anche per elogiarli, come facevano gli ascoltatori di prima, per dire: avete fatto bene. Però diteci chi è stato a ordinare quei pannelli bianchi che coprono le statue con i pisellini o con le zine di fuori. Pronto? Consiglio, buonasera. Sì, buonasera, è cerimoniale, vorrei parlare col cerimoniale di Palazzo Chigi, per favore. Sì, attenda. Grazie. Ce l'ho fatta, Cruciani. Aspetta. Cerimoniale? Sì, buonasera, senta, io sono un cittadino e volevo sapere il nome della persona che ha autorizzato a coprire le statue ieri quando c'è stata la visita del presidente iraniano. Guardi, noi non siamo autorizzati a lasciare niente, a dire niente. Ma neanche un semplice cittadino che vuole sapere... No, deve rivolgersi all'ufficio stampa. Va bene, arrivederci. Ecco, questa, Cruciani, è stata la risposta in diretta del cerimoniale di Palazzo Chigi. Vabbè, è così, d'altra parte non è che uno si può aspettare qualcosa, cioè, se un cittadino chiama. In realtà, secondo me, sì, cioè un cittadino vuole sapere che cosa è successo, no? Ha diritto di sapere cosa è successo, non è che sì, tutto può rimanere nel mistero della politica. Cioè, per cui, Renzi e Franceschini ci dicono: questo signore ha ordinato i pannelli. Poi ognuno giudica, ha fatto bene, ha fatto male, c'è chi dice è giusto preservare gli affari, eccetera, eccetera. Marco da Udine, vai, 800 24 00 24, mi dite, devi ricordare il numero per i messaggi WhatsApp, per lasciare i vostri messaggi audio. Io i numeri di telefono detti alla radio è una cosa antica, vecchia, che purtroppo bisogna dire, ma come fa la gente per alimentare queste cose? D'accordo, però io odio questa roba qua, è una cosa che appena gli altri lo dicono mi repelle. 393 71 71 701, lo dico quasi con dispiacere. Marco, vai. Eccomi. Chi se ne frega delle statue coperte in nudo, ma chi se ne frega? Ah, tu te ne fotti delle statue coperte? Ti dirò anche perché. Io sono leghista, non mi piace l'Islam, non mi piacciono tutte questa gente con i turbanti, eccetera. Poi è successa una cosa e mi ha fatto riflettere. Ho detto, ma forse ci scandalizziamo per la cultura loro schifosa e inferiore, però i loro soldi non ci fanno tanto schifo. Io avevo delle azioni, sono un borghesuccio, da un impiegatuccio fantoziano medio, che ha un paio di migliaia di euro di azioni. Avevo le azioni Danieli e Fincantieri in profondo rosso da mesi, perché e allora? È una merda la borsa. È arrivato l'omino col turbante, sì. Di colpo in due giorni sono andato in un bellissimo verde, mi sono rifatto praticamente uno stipendio. E ringrazia le statue allora anche. Ringrazio le statue. Ma che c'entra adesso? Tu hai messo in collegamento. Tu hai messo in collegamento il fatto che improvvisamente le tue azioni, non mi ricordo di quale azienda adesso, i Fincantieri, sono aumentate di valore con la visita del signore iraniano. Può darsi, può darsi che sia 5 miliardi con sì, può darsi che sia così. Dunque tu stai dicendo te ne fotti di quattro statue coperte, io guarda le mie tasche e prima perdevo con quelle azioni, adesso invece guadagno. Io non dico sia giusto, ma è così che è successo. Tu non hai coraggio di dirlo, ma invece lo pensi. Io ho coraggio di dire quel che penso, e io penso che siccome non c'è nessuna differenza tra l'accordo per Gheddafi che non ci mandi qui i profughi e abbiamo accettato, ma no, perché c'è una logica nelle polemiche, secondo me. Ma l'hai già detto, io non devo avere coraggio di dire niente. È chiaro che mi dispiace che il mio paese, per ragioni di affari, abbia coperto le statue. Siamo finiti sulle prime pagine di tutto il mondo con le scatole alle statue, ragazzi. A questo signore, come a tante aziende italiane, non gliene frega nulla, perché preferiscono giustamente incassarsi i soldi, perché purtroppo pecuniano nole. Scusami, quindi non fate gli ipocriti. Posso anche seguirti su questa cosa qua. Ma non sarebbe stato meglio allora? Cioè, si combattono i diritti umani e le persone e i diritti. Scusami, ma non sarebbe stato meglio, Davide? Non sarebbe stato meglio scegliere un itinerario diverso? Ma questo d'accordo. Hai capito, quello è il punto. Però è una cosa un po' ipocrita. Seconda cosa, sei così sicuro che se quello là davvero avesse visto queste statue qui sarebbe cambiato qualcosa dal punto di vista degli affari? Questo non interessa di per sé, perché è relativo. Dimmi. Purtroppo devo dare ragione a Parenzo. Perché purtroppo? È un delitto, non è che vai... Non mi trovo d'accordo con lui, ma è che è ipocrisia. E poi Calderoli, che io ammiro moltissimo, al contrario, ammiro moltissimo, parla, perché lui il suo stipendio da parlamentare ce l'ha, Sgarbi, lui non ha problemi di... Vabbè, questo non che se ne cazzo frega c'entra, soldi, dai, eccetera. Su... Per cui, ma è facile... Ma tu dici, con i soldi ci possiamo... Sì, c'è cosa e cosa, però. Io capisco la realpolitik, ma questa roba qui, dal punto di vista dell'immagine, fa un danno enorme. Perché in tutto il mondo ci pigliano per il culo, perché abbiamo messo le scatole e le statue per un signore che è venuto qua con turbante e con l'asciugamano, allora, come dice Crozza. Lo facciamo venire, gli facciamo scegliere un altro itinerario, non copriamo le statue, copriamo di ridicolo. Ma l'altro addirittura è venuto con una tenda, con delle amazzoni, ci siamo coperti di ridicolo. Villa ci siamo coperti di ridicolo per una settimana. Andava in ritardo agli appuntamenti, aveva appuntamento all'università, non c'è andato, girava almeno, con ste almeno cavoli quello, di amazzoni. Almeno a quello gli piaceva la figa. Ma questo non si c'entra dire, niente rispetto... quello, c'entrava il fatto semplicemente quello... che c'era un interesse di fargli firmare un accordino che non ci mandasse più i migranti. Marco, grazie, qui. Marco, grazie. Mario, Reggio Calabria, vai. Sì, salve a tutti. Dimmi. Infatti sto uscendo da un negozio e stanno facendo gli sconti. Io vorrei rilanciare l'idea dell'economia italiana, visto che ci avviciniamo al Carnevale 2016, quale meglio soluzione che il vestito da profugo? Cioè, scusa... Ecco, vorrei lanciare la moda del vestito da profugo, tipo, tutti i vestiti usati, strappati... io chiamo da Reggio Calabria, quindi una spruzzata di acqua marina per rendere più verosimile la cosa, e così tipo si lancia la moda del vestito di carnevale da profugo. Parenzo già si sta scaldando su questa cosa ha detto una cazzata, perché in realtà purtroppo la Amazon cosa è stata già bloccata. Sì, è stata già bloccata. Esatto, già... come altri... Su Amazon vendevano dei vestiti da profugo per bambini. E l'hanno bloccata, sì, anche secondo me in maniera un po', cioè l'azienda si è pentita. Se tu l'hai architettata, l'hai pensata, l'hai portata addirittura sul web per vendere questi vestitini per i bambini da profugo per carnevale, portala avanti, no? Deve avere le palle per portarla avanti. Parte, non ma è cosa che deve portare? Se uno si accorge che ha fatto una sciocchezza, deve dire no, deve continuare. Scusa, una cosa del genere, non è che ci mettono 3 secondi, devono stampare. Siccome le evidentemente, però, sono reso i conti di aver fatto un danno anche alla stessa azienda che si è sputtanata. Vabbè, Mario, allora cosa, Mario no? invece propone questa cosa qui: il travestimento da profugo, giusto? Per carnevale. Beh, non occorre neanche comprarlo, perché basta, Mario, che ti metti due cose a casa. Marina dello stretto, spruzzato di acqua marina dello stretto, e così tipo profuma proprio, è una specie di metodo Stanislavski, le persone che lo indossano si immedesimano nel personaggio ancora meglio. Vabbè, col tra l'altro scusami, questa cosa qui, io ho visto i vestiti che erano venduti su Amazon, non so dove, su qualche sito, ma manco erano riconoscibili, cioè non è che il profugo ha un vestito, era proprio una coglionata, perché al di là della questione del politicamente corretto, che non si deve fare perché i profughi, quello che volete, che è un argomento che odio, è proprio una cosa ridicola, perché non è che i profughi che arrivano qui hanno tutti una divisa, cioè questi erano, tra l'altro, erano i vestiti che ho visto io, Parenzo, quelli che poi sono stati, no, le vendite io sono state annullate, sembravano più una roba da seconda guerra mondiale, cioè non so, capito, da deportati più una che roba da roba che non ha nessun senso. Ah sì, vabbè, ma chi se li comprava poi, no? Roberto da Modena, dai, Roberto. Ciao Cruciani, buonasera a tutti, dimmi. Buonasera a voi. Niente, io volevo semplicemente dire una cosa molto rapida e veloce. Io ho un amico iraniano che ieri era presente nel giro che ha fatto il presidente, e stamattina ovviamente incontrandolo gli ho detto: scusa, ma porca miseria, se avete fatto coprire anche le statue. E lui mi ha detto candidamente: ma da quello che mi risulta noi non avevamo fatto nessuna richiesta. Ma invece sembra che una delegazione iraniana venuta prima qui in visita per curare i dettagli di questo viaggio avesse chiesto la cosa. Poi sai, ormai le notizie possono essere più disparate, perché ormai tutti pensano a coprirsi il culo, a pararsi il culo da questa cosa qui, per cui nessuna cosa ormai è controllabile dal punto di vista delle notizie, perché vai a capire se sono stati loro a chiedere, se è stata un'iniziativa nostra, le mail, i dispacci, le cose. Ormai è una cosa da cui non se ne esce, se ne dovrebbe uscire con un responsabile. Comunque, a te che cos'è che ti hanno detto, Roberto? No, sostanzialmente che non avevano fatto nessuna richiesta. Poi io non, cioè, te l'ha detto un amico iraniano che era presente, sì, che era dentro, sì, però, la delegazione del presidente iraniano. No, però diciamo che non ho riscontri oggettivi, quindi voglio dire, mi può anche aver raccontato una frottola, però questo va molto nella direzione che dicevi tu all'inizio della trasmissione, quando hai cominciato appunto a dire che probabilmente un eccesso di zelo del nostro cerimoniale. Ma se vedo anche questo collegato all'affare dell'Arabia Saudita con i Rolex, è sempre colpa del cerimoniale. Qualcuno magari mi dovrebbe spiegare come mai è sempre colpa del cerimoniale, o è veramente un eccesso di zelo, o viene scaricato qualsiasi problema sul cerimoniale. Ma è la solita cosa, cioè, Renzi e Franceschini che dicono: noi non sappiamo nulla. La sovrintendenza di Roma, di quella che governa insomma il museo, dice: no, chiedete a Palazzo Chigi, noi non c'entriamo niente. Ma è una roba veramente all'italiana, vergognosa questa cosa qui. Al di là uno la può pensare in un modo o nell'altro. Ma chi autorizzò la tenda di Gheddafi invece? Chi quello direttamente a Berlusconi, secondo Benissimo. Me, ma no, lui si assunse la responsabilità, almeno questo. L'autorizzò Maria, la tenda. Ma sei fissato con questa cosa? Lo sappiamo, l'hai già detto. Che la logica di nuovo? Ha i suoi diritti. Vabbè. Di nuovo c'è semplicemente che ma oggi l'hai già furia... detto, l'hai già detto, il punto vabbè, è solo ma non ripetere 40 volte, se metti a noi. Va ripetuto. E vabbè, l'hai ripetuto. Vabbè. Voi ripetete sempre la solita roba. Oh, caro Parenzo, io direi di provare a fare una telefonatina al un nostro amico per capire come la pensa su questa vicenda, no? Questa vicenda che comunque è una vicenda importante. Mentana addirittura durante il telegiornale, non so dove, ha coperto la faccia di Renzi, cioè stupendo, meraviglioso. La signora Merlino, sempre sulla 7, si è presentata dentro quasi una cabina elettorale coperta. Cioè, comunque è una cosa che ha fatto incazzare un sacco di gente. Uno può anche pensarla come te, dicendo: vabbè, ma in fin dei conti poi c'è la realpolitik, gli affari, eccetera. Dunque non siate ipocriti. Un ragionamento che posso seguire, però a me è una cosa che mi ha fatto incazzare, perché l'ho trovata una cosa inutile. Comunque, io credo che una persona giusta da chiamare, vediamo un po' se risponde, perché come al solito è occupato in mille cose, sia il nostro caro Daverio, Filippo Daverio, critico d'arte, eccetera, eccetera. Non solo, è stato assessore a Milano. Insomma, lui ci tiene, no, ai monumenti, alle cose, cioè, ci tiene soprattutto che siano visti, non che siano coperti. Pronto? Caro Filippo, siamo qui, la Zanzara, come stai? Oh, la Zanzara, come state voi? Bene, non c'è male. Ciao caro, ciao. Tutto il mondo contro la decisione, non si sa di chi, perché poi c'è, come al solito, lo scarico di responsabilità. Il governo dice di non sapere niente, la sovrintendenza dice: no, ha deciso tutto Palazzo Chigi. Già è una vergogna questa roba qua, no? Cioè, secondo te, per esempio, chi decide queste cose? Decide l'ultimo che arriva. Ed è lì la italianità totale si fonda su una regola fondamentale che dovremmo chiedere venisse inserita nel primo articolo della Costituzione. Cioè? L'Italia è una repubblica basata sul pressapochismo, il dilettantismo totale. Per giunta anche una idea concettuale assolutamente demente, perché se noi abbiamo rispetto per le loro tradizioni quando le andiamo a trovare, io so benissimo che uno come Rouhani, che non è l'ultimo arrivato in questa terra, ha assoluto rispetto per le nostre tradizioni. Beh, non ne poteva imparare di meno. Anche se, devo dire la verità, oggi Rouhani ha subito detto: beh, hanno avuto rispetto per me, eccetera, eccetera. Cioè... Sì, ma lui l'ha menata bene, perché intanto ne approfitto. Intanto ne approfitto. E poi se uno di loro non è in grado di accettare le nostre regole, dobbiamo fare come facevano i nobili uomini quando ricevevano le pigioni dai contadini. Cioè? Non li ricevevano in salotto, li facevano entrare in cucina. Ah, tu dici, se proprio se provo, se non volete le nostre abitudini, abbiamo tempo, possiamo vederci al garage, possiamo vederci, che le automobili certo. Mi piacciono a quelli lì, poi molto, no? Ah, tu dici a quel punto sì. Accogliamo il dignitario iraniano in garage, in garage lo accogliamo, non lo so, nella, hai capito, alla stazione direttamente, cioè nei luoghi dove lui non si imbarazza, è un fatto di cortesia, non di disprezzo. No, no, cioè, certo, non, certo, per non mettere a disagio. L'ho visto dove? L'ho visto in lavanderia. Cioè, se c'hai uno che hai le scarpe sporche, non lo fai andare sul tappeto. Ma poi, secondo te, scusa, secondo te, si sarebbe scandalizzato davanti a quei pisellini? Ma va, no, anche perché ce l'ha sicuramente più grande lui. Ah, Rohani ce l'ha più grande. Sì, perché quelli lì sono quelli storici, sono sempre un po' ridotti, no? Un po' più. Sì, anche, sì, quelli storici sono, quelli, sono ridotti, è vero. Quello di un tramviere, cioè non è che siano, in generale, è una descrizione abbastanza riduttiva, non è? Sì, il pene è sempre, perché fanno sempre i peni piccoli nelle statue, tra l'altro? Alcuni sostenevano che perché i greci ce l'avevano piccolo, per questo si sono estinti, ma non è vero. Non è vero, in realtà, per un fatto di estetica. Ah, tu dici che era brutto far vedere un pene, un pene. Era una descrizione ideale. Oppure perché tutti possono sentirsi a loro agio, diciamo, e davanti. Poi tutti si sentivano leggermente superiori, sai. Tu vedi un Ercole con tutta quella muscolatura e dici, beh, almeno la muscolatura mi batte, ma su quell'attrezzo lì... Il cazzettino, invece c'è il cazzettino dopo. C'è un apporto di misura, no? Tu ci credi al fatto che Renzi e Franceschini non sapevano nulla? Diciamo la verità, ci credi o no? Abbastanza, sai. Nel comune di Roma, la presidenza del Consiglio, già un protocollo un po' più slabrato. Può anche darsi che nessuno se ne sia accorti, che sia venuto in mente a uno con un attacco di eccesso di zelo, dire adesso faccio bella figura io. Come potrebbe darsi, la vera verità è che dietro ci sia un provocatore che ha inventato tutta questa barzelletta. Cioè? Ma quello che dice adesso gliela tiro io, così se ne accorgono. Ah, tu dici addirittura qualcuno che vuole fare lo sgambetto al governo, addirittura. Sì, no, una di quelle piccole caronierie che ogni tanto negli uffici pubblici vengono in un come alimentati. Questa è una nuova teoria. Questo, che io ho vissuto gli uffici pubblici e so quanta malizia serpeggia sotto le scrivanie. Va bene, ciao Filippo, grazie, ciao, un grande ciao. Però, Davide, che io non credo alla teoria del pressappochismo, cioè che è la tua teoria, cioè non credo alla teoria del funzionario. So se... secondo me sarebbe addirittura più. Se fosse così, sarebbe più grave. Secondo me tutti sapevano perfettamente qual è l'itinerario. Beh, verrà fuori, che sarà facile da scoprire, questo va benissimo. Dai. Michele Monza, dai, Michele da Monza, forza. Michele, dimmi. Mi senti? Sì, sì. Ok. Niente, io volevo dire un paio di cose a voi due spiritosi, a tutti gli altri come voi che parlano contro questa faccenda delle statue. Io penso che il governo ha fatto benissimo. Lo rivendicasse almeno. Cioè, lo dovrebbe rivendicare, c'è qualcuno che lo sostiene, bisogna rivendicarlo. Sono d'accordo con te, lo dovrebbe rivendicare, perché è una cosa secondo me giusta. Ti faccio, te lo spiego meglio facendo una domanda a Parenzo. Credo che Parenzo abbia detto di osservare la religione ebraica, no? Allora, in che senso? Scusa, è ebreo, sì, certo, ebreo, dunque anche un po' praticante, per cui sì, insomma, sì, è ebreo, di religione allora ebraica, Esatto, allora io a lui voglio domandare, supponiamo che un esponente della sua religione venga invitato dal governo a cena. Sempre. Un esponente della religione, del governo iraniano. A cena. Viene invitato a cena e nel piatto gli mettono una salsiccia di maiale. È diversa la cosa, dai, non è la stessa. Perché è diversa? Non è la stessa cosa. È una questione di rispetto. Non è la stessa cosa. Intanto è normale che quando si fanno, ad esempio, gli incontri bilaterali anche con lo Stato di Israele, pur Netanyahu non essendo religioso, però non gli viene servito il maiale. Ma questo è come se vai in India. Però questo non mi pare il problema, francamente. Ma non è la stessa cosa. Cioè, tu qua decidi di coprire una cosa che appartiene al nostro patrimonio culturale. Non scegli un menù diverso in base all'ospite, è una cosa un po' diversa, Michele. Comunque, perché sei a favore di questa copertura? Non ho capito. Credo che sia una cosa diversa, perché è una questione di rispetto nell'uno e nell'altro. Vabbè, ma perché sei a favore della copertura? Solo per una questione di rispetto, dici? Ma sì, ma figurati se Rohani non conosce il pisello, non conosce le zinne. Ma il pisello lo conoscerà, le zinne non lo so, perché non so quanto scopano, quanto conoscono le donne. La più lunga di me, di te e di Parenzo messi insieme. Ma questo non lo so, un imam, no, in realtà non è un imam, insomma, no, infatti non è imam, ho detto. Cioè, un capo dello lo stato iraniano, non credo che conosca la figa tantissimo, comunque sì, avrà una conoscenza limitata da... cioè questo è il vero, uno dei grandi problemi è questa roba qua, avrà una conoscenza della figa molto molto limitata, però questo non significa nulla, cioè noi siamo una società aperta dove possiamo tranquillamente accedere a YouPorn, possiamo bere quello che vogliamo, per fortuna quelli no, non lo possono fare, ma noi non ci vogliamo adeguare. Dunque, se abbiamo delle statue con dei bei nudi, con delle belle zinne, con delle belle pisellini, le statue che no, ovviamente non c'entra niente il nudo in questo caso, è una mia battuta, sono la nostra storia, le dobbiamo mostrare fieri, anche davanti a uno che attraversa quella sala, oppure non gliela facciamo attraversare. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La Zanzara. Io ero un suo estimatore, però ho deciso di fare un appello per cambiarla, sì, per cambiare, mettere Milan. Lei è diventato insopportabile. Lo so, che devo fare, sono fatto così. Ormai è andato. Allora poi uno mi scrive, io ci sono stati in Iran e fidati, c'è di tutto, alcol, droga, figa, froci, YouPorn, se vuoi ti spiego come vivono i giovani, non solo le stronzate che leggiamo su Facebook, ma non c'è dubbio su questo, è tutto, come dire, nascosto però, cioè nel senso che c'è l'ipocrisia del divieto e poi invece una vita sotterranea in cui si può tutto, ma io parlavo del signore col turbante con l'asciugamano lì, come dice Crozza, che è venuto a trovarci e per cui abbiamo fatto questa figura di cacca colossale. Allora, Alberto da Padova. No, Roberto da Padova. Roberto da Padova, va bene, dai, è uguale. Posso ritirarti un'etichetta prima? Ciao, intanto. Dimmi. Che pensi? Insomma, guarda, prima ti dico questa. Natura è spelle furca, cani, nusque ricorre. Puoi cacciare all'indole naturale con una forca, ma tornerà sempre nuovamente. Questo per dire che io mi taglio i genitali se... Cruciani, scusi amico mio, aspetta, mi sono mi so... aspetta, non è una cacchetta. No, aspetta un attimo Roberto, ci siamo un po' confusi, poco, però ci siamo un po' fermati quando hai iniziato a parlare, poi mi sono reso conto di non avere capito una stramazza di quello che hai detto, cioè, dimmi, ripeti un attimo, ripeto, però mi lasci intervenire sugli animali dopo, sì, dimmi, vai, okay. Tranquillo, stai facendo tutto tu da solo. Ti dicevo, in latino, sì. E poi mi hai già sentito parlare latino, dai. Natura è spelle furca, canem nusque recurre. Cioè, che vuol dire? Traduci. Puoi cacciare l'indole naturale con una forca, ma tornerà sempre nuovamente. Ma questo a proposito di che? Cioè, l'indole naturale resta sempre. L'indole naturale che... diciamo che è nato nell'uomo... sarebbe lungo anche un po' a spiegare, però non vorrei perdere troppo tempo. Dunque, abbiamo 49 ormoni femminili e 51 maschili, ok? Tutti è innato che siamo un pochettino questo, però, cioè siamo bisex. Come evidenzia, volevo dire cruciani, sì, di essere un bisex. E come guarda, non ho ancora passato il Rubicone, cioè non ho ancora. Però può darsi, non lo escludo, io non l'ho mai escluso in vita mia, però, ti ripeto, non sono bisex. Tu dici siamo tutti potenzialmente bisex, questo vuoi dire? E come? Parenzo è una checchetta, non dirmi di no. Parenzo è una? Ho un po' di commiserazione nei confronti anche di Parenzo, però proprio per quei limiti forse che ha. Comunque, lasciando perdere questo non ho voglia. Ah, ricordiamo anche a Parenzo che quando parla di nazismo, vorrei darti anche una provocazione, anzi te la do anche questa. Dammela, regalamela, dai. Sentiamo. Regalami qualche altra perla. Prima dagli animali però, Prima dopo mi intervengo anche sugli animali. Guarda, ma stai facendo tutto da pace, solo, nessuno ti sta fermando, vai tranquillo. Pace all'anima loro, sia ben chiaro, animali, a priori sì, questo. Certo. A priori. Ma vedi, io ti faccio questa provocazione. Dimmela. Lode al divino Hitler. Pochi ebrei, filistei, farisei soppressi. Privilegio e onore per me essere tra essi, e solo priorità avrei implorato al divino Hitler. Questo per dire, no, non ho capito, il divino, il divino essere adesso. No, ma di fronte al divino Hitler mi sono un po' fermato. Cioè, è vero che siamo nel campo del delirio, è vero che siamo nel campo dell'ambulanza, è vero che siamo nel campo dell'ospedale. Credo, Parenzo, possiamo definire. Non so dove era la provocazione. Non so come ha fatto uscire la provocazione, non l'ho capita la provocazione. Non so come ha fatto uscire dall'istituto, però. Perché piuttosto essere in mezzo a tanta falsità, ipocrisia ed ebraismo attuale, preferivo essere stato allora là e avrei piacere di essere prima e essere buttato in forno. Poi se ti spiego un po' la storia è un corpo di... non ho capito che non mi interessa il passaggio qua. È... ma come non ti interessa? Io non ho capito come è uscito questo qui. Tu dici come è uscito dall'ospedale come psichiatrico? Ha fatto uscire dalla come ha fatto uscire dal... e chi lo ha fatto andare? Io mi indignerei. Tu dici che se lo portano davanti a un tribunale perché ne so, non no. Antisemitismo, cose del genere. Ma gli danno il l'infermità mentale, ma totale, ma non c'è che bisogno di dimostrarla. Cioè, no, basta portare... che ho fatto, no, ho detto, no, non è una provocazione. Non c'è nessun elemento per poter affrontare niente. Cioè, vabbè, è stato, dimmi, qual è la provocazione, è Roberto? Da un istituto di pena. Fatta la provocazione, se l'hai capita, la metafora che c'è dentro. Qual è la metafora? Io credo che dentro non ci sia niente, questo è il problema. Fatti, ma nel cervello allora, non c'è niente. Se allora con i tempi Hitler ha fatto quello che ha fatto, convinto di fare moralità, o che sia, o la razza ariana, prova a pensare adesso a che livello siamo con la mancanza. Con la mancanza di moralità e di concretezza nel rapporto umano. Va bene, adesso arrivano dei signori, è tanto tempo che non lo dico, adesso arriveranno sicuramente dei signori. Aspetta, perché non c'è momento. No, però parliamo degli animali che tu volevi parlare. Ti ricordi che io sappia, tempi dagli albori a questo punto, però scusa, urge una cosa che io da tempo, perché poi non è uno può ripetere la stessa cosa per anni, no, Parenzo? A questo punto, ecco, credo che urge una cosa, l'indirizzo. Urge l'indirizzo. No, ma questo è un... ma avuto anche l'indirizzo, te lo do volentieri, sai. Dai, dammi. Non ho avuto paura né problemi. No, è appunto, dammi non l'indirizzo. Non è paura, è una questione sanitaria, non paura. Dammi l'indirizzo. Non sovrapporti per piacere, Parenzo, se no non capisco niente qua per telefono. No, ma appunto, Roberto, non ti sovrapporre. Non è dovuto alla sovrapposizione delle parole. Dunque, lasciami intervenire sui degli animali, lasciamo perdere. L'indirizzo voglio prima. Roberto, l'indirizzo, scusa, sono dei gentili signori. Nome, cognome, paternità, lo conoscono tutti qua a Padova e anche su altri emittenti le conoscono molto certo bene. Certo che la conoscono, come una persona instabile, perché è evidente che la conoscono tutti. No, però anche scusami, sulle altre Roberto, emittenti, io, è ovvio. Io vorrei sanno che lei è un matto, indirizzo questo. Perché i signori non possono essere mobilitati per nulla. No, perché altrimenti c'è gente veramente che poi... Lasciami finire l'intervento sugli animali, bella gioia. Sì, ho capito, ma dopo mi devi dare l'indirizzo bella però, gioia. Roberto. Non si passa il numero telefonico. No, l'indirizzo, no, l'indirizzo. Perché questa macchina che lei sente con delle luci blu e questa musica che sembra noiosa. Ma non mi fa essere scendere in coprolalia come sei abituato te. Questa o macchina a volte tiro fuori. Non può girare. Lei, siamo obiettivi. Non può girare a vuoto per tutta la città del Santo. Capito? Parenzo, sei un pidocchio, vuoi capirlo? Hai capito? No? È un pidocchio. Mi fai pena, pietà, commiserazione. E te lo posso dire uno che può darsi che ne abbia da dire. Sì. Capito, Parenzo? Il suo stato di salute... un pochettino, malgrado la sua volgarità. Ma tu fai pena? Hai fare capito? Le radical sick, ha ma benedetto vai, anche Cruciani. Che cura, Parenzo. Non è tu farti hai bisogno di un una cura. Pensare, se tieni complesso sai? E frustrazioni... Cioè, avere capito, il consenso Parenzo? Da questo tal Roberto da Padova, no, secondo no, me, no, no, ti no, dovrebbe no, far no, riflettere. Non sovrapponetevi! Che si lamenta, cioè capisci, tutto quello che ha detto. Vabbè, Roberto, io dico una cosa. Ci vuoi dare questo benedetto indirizzo, altrimenti i signori in camici... Dopo la gioia, se vuoi, però... Guarda che io a me non piace sodomizzarti, Non mi piace? Sodomizzarti, a me non piace sodomizzarti. Ma io infatti non ho detto niente, ma non voglio essere sodomizzato. Non so che rapporto hai con questo ma signore, no, nessuno, ma ti posso assicurare, nessuno, però, no! Guarda, è curioso, ti veramente. Giuro su mia figlia che non ho nessun rapporto. Mi lasci fare il tuo intervento sugli animali o no? Sì, vai sugli animali, vai. Tu ricordi che dai tempi ti ho detto, come ti dicevo prima... Vi frequentate? Siamo stati cannibali, no? I cannibali. Fino a 74 con Boccassa. Siamo stati cannibali, beh, no? Sì, ci mandavano quasi solo carne umana, giusto? Qualcuno, sì, appunto Bocassa, insomma, non gente normale, insomma, stiamo parlando di... Comunque, è allora... vero o no questo? Sì, è vero, c'era Bocassa. Bene, sapremo civilizzarsi anche non uccidendo più e mandando carne, non uccidendo più agli animali. Ti dirò di più. Non ho capito. Io non riuscivo neanche, a parte frutta... Una volta si mangiava carne umana, qualcuno mangiava carne umana, allora... No, qualcuno, tutti, ai tempi, non rompere le ulti. Ma nessuno, ma non è vero, non è vero. No, dai, ragione, ma chi l'ha detto? Si andava a caccia, hai ragione. Ma in particolare si mangiava carne umana? Sì, è vero. Certo, è vero. Si faceva la guerra solo per uccidere i nemici e mandarli. Vabbè, poi? Esatto. Si diceva, stilo 74. Comunque, ricordati anche, penso, che da Goebbels, Bormann, da Hitler, insomma, fino al capo delle baracche, tutti erano ebreo o discendenza ebraica. Ricordo questo, c'è anche un libro scritto da un ebreo su questo. Fino a 18 anni, e sono riuscito, ha sempre mangiato solo 4-5 volte al giorno caffè, latte e pane. Ti posso assicurare, Parenzo, che se vai a guardare via San Francesco... Sì, no, ma ha ragione su tutto, guardi, ha ragione. Come? No, dico che ha ragione su tutto, per carità, è vero. Vabbè, allora 5 volte al giorno, poi? Aspetta. Mangiavo anche frutta, mangiavo anche altro, formaggio, uova, ma e via. Manca il soggetto, il verbo, tutto confuso. Ripeto, neanche mettere in bocca pasta asciutta, perché era quel viscido che mi dava fastidio in bocca. Bene, ti posso assicurare che ero un primo sempre in ginnastica artistica fino a 13-14 anni. Faccio e poi fino a 20 anni. Un primo nel judo, bella gioia, se vai a guardare, hai capito? No. Tanto perché hai un'idea. Comunque, guarda, ti cito anche due frasi di cose. No, adesso voglio l'indirizzo, perché signori... C'è tanta confusione in quella testa e tanta malattia. E tanta malattia, tanta confusione, tanta malattia. Non lo fare scatenare un'altra volta, dai. Che il Signore sia con te e che ti benedica, guarda. Sentilo, vedi come sento. Ma vedi come sì, ma perché l'hai di nuovo? Subito. Ma tu sei contro, tu sei il contrario degli infermieri. Senti come si è riccita. Va bene, d'accordo, amico. Hai ragione, Roberto. Allora, i due signori però stanno arrivando. Due, in quattro arriveranno. Due macchine. Voglio l'indirizzo. No, sono cruciani. Voglio l'indirizzo. Come la chiamico di lingua, come li fai te, Parenzo? Da te non lo voglio proprio, non mi sei simpatico. Va bene, d'accordo. L'indirizzo, Roberto, ti prego, l'indirizzo. Te lo chiedo io, il tuo amico Cruciani, tuo conoscente Cruciani. Qual è l'indirizzo? Come qua? Cosa ti dico questa domanda? Qual è il diritto? L'indirizzo! Perché l'avete fatto per beneficiare i beneficiari che ne possono beneficiare? Ma di parla? L'indirizzo! Ma di cosa vorrei risposta? Sapere l'indirizzo? L'indirizzo! Perché non può essere fatta adesso, ti dico, per beneficiare? Ma cosa? Ma lei è un matto? Ma non lo vuoi saltare? Non ti prego, perché abbiamo una Costituzione, ricordati il 2, 3, vuoi che ti cito? Chi è che vuoi che ti cito? Ma non voglio che mi citi nulla! Vuoi che ti cito Machiavelli? Tu è che vuoi che ti cito? Roberto, dimmelo bella gioia, Dante. Ti prego, ti scongiuro. Che Parenzo, non ti sovrapporre. Ti scongiuro, te lo chiedo per favore, una volta per tutte. Dacci un indirizzo, perché non possiamo fare... all'ascolto, un numero di telefono di Parenti Roberto, all'ascolto. Roberto, dammi un indirizzo, ti prego. Un indirizzo con numero civico, ti prego. Ti prego. Te lo manderò. No, dimmelo qua adesso, ci sono dei signori che... Dimmi. Te lo manderò, visto che anche la tua mail. Vediamo se dopo hai genitali, ne parliamo anche del diritto. Vediamo se hai genitali sotto te, visto che ti ha creduto dopo. Capisci? Dammi io l'indirizzo. Ho il tuo indirizzo, Cruciani. Dammi l'indirizzo. E qual è il mio indirizzo? No, io ce l'ho il tuo, qual è? Mail. Qual è il mio? Vuoi che te lo dico? Cruciani. Sì. Giuseppe Chiocciola. No, non è questo. Ma non è la mail, è l'indirizzo civico. Perché i signori con l'ambulanza dove vengono se no? Dammi l'indirizzo, ti prego. Che c'ha per gusto quel gatto capio. Vabbè, amico mio, tanto noi abbiamo il localizzatore, abbiamo il tuo numero di telefono, lo consegniamo ai signori. Non li trattare male, non ti ribellare, è una cosa molto veloce. Domani starai meglio, ciao. È un gatto che ormai è tutto finito. La Zanzara. Allora, molto probabilmente il responsabile di tutto quello che è accaduto, poi bisogna vedere se era informato il governo, sto parlando sempre della questione delle statue, bisogna vedere se il governo era informato o no, è questo famoso capo del cerimoniale di Palazzo Chigi, la signora Ilva Sapora, 64 anni, una cosa che sapevamo già dal pomeriggio in realtà, cioè che molto probabilmente il responsabile era il capo del cerimoniale del governo di Palazzo Chigi. E questa signora fa sapere di non poter rilasciare dichiarazioni, come avete sentito anche dalle telefonate dei nostri ascoltatori al centralino di Palazzo Chigi, perché è una questione di etica, una questione di etica. Ma io capisco che un funzionario dello Stato, capo del cerimoniale, certo, non voglia far sapere nulla, per carità, non è un obbligo parlare. Però parlasse il capo del governo, parlasse Franceschini, dicessero ha deciso tutto quello, in modo che lei si possa anche difendere, no? Possa dire no, in realtà io l'ho detto a Palazzo Chigi, l'ho detto, ho informato l'amico D'Arenzio, ho informato il capo ufficio stampa, ho informato quello, qualcosa deve uscire fuori. Poi non è che può cadere la testa della signora Sapore, che è quella che è stata coinvolta anche dalla vicenda dei Rolex, che a un certo punto, quando ha scoperto che ha preso in mano la situazione, ha raccolto tutti sti Rolex e li ha portati poi a Palazzo Chigi. Roberto da Pesaro, vai. Pronto? Dimmi. Sì, salve Cruciani, salve Prese. Ascolta, a proposito dei vegani, pronto? Vai, pronto? Vai. Ma che te devo dare il timbro papale per iniziare a parlare? No, dai. Grazie, no, non mi interessa, te lo tieni per te. A proposito dei vegani, no? Sti vegani, sti maledetti vegani. Pronto? E parla, forza. Avanti, amico mio, su, ma che stai a fare? A proposito dei vegani, volevo dire una cosa, che sti vegani, finché sono adulti, io li posso capire, siamo grandi adulti, vaccinati, va bene, ma che i genitori costringono i bambini di 7 anni di diventare vegani, sono dei assassini. Bene. Amico mio, perché però ti assumi la responsabilità di quello che dici, per carità. Assumo. Certo che ne assumo, perché mi è successo una cosa. Vado a prendere mia figlia, posso raccontare? Velocissimo. Sì. Ma è qui, ma era... Vado a prendere mia figlia da suoi amici, che ha 7 anni. Era dei suoi amici. Sì. Chiama mia moglie e mi dice, vai a prendere tua figlia da Tizio Caio. Vado, prendo mia figlia, mi monto in macchina anche due suoi amichetti che abitano vicino. Sì. Allora? Roberto? Va benissimo. Ma questo andiamo è spostato. No, non è spostato, mi sembra lucido. Non è come quello di prima. Sempre Roberto era, o no? Ma perché non parla, però? Non si capisce. Ma sto parlando, scusa, sto parlando. Ma se mi fai parlare. Ma ti fermi sempre. Mica, hai bisogno... Non è che mi fermo, magari la linea che. Ma no, noi ti sentiamo benissimo. Basta che parli, ecco, però. Bisogna parlare alla radio. Altrimenti non funziona. Prendo mia figlia con questi due suoi amichetti. Tornando verso casa, mi chiedono a McDonald's. Mi fermo a McDonald's. Prendo da mangiare i hamburger, le crocchette, le patatine, la roba varia. Mangiano. Io non sapevo che questi due amichetti erano vegani. Sì. Non lo sapevo questa cosa qui. Vado a casa, li accompagno a casa, tutto bene. A mezzanotte mi chiamano i genitori, mi dico cosa hanno mangiato i miei figli, erano a pronto soccorso, hanno fatto un lavaggio di stomaco, è un casino dalla Madonna perché i bambini hanno mangiato i McDonald's. Ma cioè, ti hanno fatto... Che cosa ti hanno fatto? No? Ti hanno fatto una piazzata per questo? Ma mi hanno fatto nero, nel senso, cioè, mi hanno un po'... Ma non è... Non è ma dovevano dirtelo prima però, amico mio. Ma carissimo mio... Ma si può costringere un bambino di 7 anni di non mangiare? Se te lo vedi ai compleanni, mangia solo due noccioline, basta. Due noccioline. No, ma va bene tutto quello che vuoi, ma... Ma va bene, non ho capito, va bene tutto, va bene. Va bene, d'accordo, ma adesso non sono manco figli tuoi, non te la prendere più di tanto. Però, no, ma ce ne sono parecchi. Ma non capito, perché sono finiti al pronto soccorso? Perché non erano preparati? Si sono sentiti male, non avevano mai mangiato il McDonald's. Hanno mangiato il McDonald's, si sono sentiti malissimo. E dunque, perché non l'hanno detto prima, non li portava al McDonald's? Pure sti genitori vegani stiano un po' più attenti, o no? Sì, ma secondo te il ragionamento che un bambino te lo vedi al compleanno, che tutti i bambini mangiano, e questi due poveri stanno da parte lì che mangiano i nocciolini? Per me siamo alla follia, ma sono anche cazzi loro, cioè, se uno vuole... poi su questo ci sono mille teorie, c'è chi dice che non fa niente, c'è chi dice che invece la lunga fa male, addirittura qualcuno... Ma come non fa? Ma lascia che crescano i bambini, quando diventano maggiorenni decidono, o sbaglio? No, ma io a me io lo ragiono così. A me lo dici, cioè, io però... Sono... Parenzo, si vede che non gli sta bene, non gli piace questi discorsi qui, ma è così. Io personalmente no, li chiamo degli assassini, guarda, perché non puoi costringere. Cioè, secondo te un genitore vegano che costringe un bambino sin da piccolo ad essere vegano, lo consideri un assassino? È una patologia, questi sono malati di mente, perché è impossibile. Va bene, ciao, Claudio Milano, allora, vai, Claudio. Ciao, Cruciani, buonasera. Io dico la mia, poi mi sbaglierò. Su questo non c'è dubbio che dici la tua, non dici né la mia né quella di Parenzo. Ti sbaglierai, però va bene. Beh, no, mamma mia, che detto due. Che si deve sbagliare anche la parte. Guarda d'occhio croce. La storia delle statue è una mega arma di distrazione di massa oppure una cagata pazzesca? In che senso? Spiegami. Allora, noi abbiamo uno stato come l'Iran, vi ricordate Ahmadinejad, uno che voleva nuclearizzare Israele, no? Sì, un soggettino così. Poi arriva questo Rouhani con l'idea di togliere da un embargo di 17 anni l'Iran. Sì, sì. Allora? E fino a qua ci siamo. Viene qua in visita da noi, miliardi, la possibilità di far diventare l'Italia una specie di hub, insieme alla Libia, del petrolio verso l'Europa, in barba alla Merkel, la Nord Stream e tutto quanto. E noi, miliardi di investimenti, pensiamo alle statue. Pensiamo alla dignità del popolo italiano quando noi ci pigliamo a schiaffoni dal mattino alla sera. Ditemi voi se è una roba che ha senso. Cioè, ma non ho capito. Alla fine di tutto questo tuo ragionamento dici teniamoci i soldi e chi se ne frega delle statue, questo è il punto? Ragazzi, 17 miliardi. Ma non è il punto, ma il punto non è quello, non è un'alternativa, non c'è l'alternativa non era o copriamo le statue o ci stracciano i contratti, non è questo il punto. Se fosse così uno potrebbe dire vabbè, chi se ne frega, copriamo due statue. Ma non è questo, hai ragione, facciamo finta che lì, come si chiama, il cerimoniale l'ha fatto per i fatti suoi, per l'amor di Dio, bla bla bla. Ma quello che voglio dire io è tutto sto sermone etico, questa indignazione. Ma chi se ne frega? A un certo punto, se vogliamo parlare di qualcosa, diciamo che questo è un negazionista e che noi l'abbiamo accolto il giorno prima del giorno della memoria. Bravo, esatto. Ok? Parliamo piuttosto che doveva venire in Italia, vi ricordate, prima del famoso venerdì 13 con quello che è successo a Parigi. Bravo, bravo. Cioè, questi sono i temi veri. Okay, chi se ne questo frega è i 17 miliardi pensato, ovviamente, che sono importanti. Però fa parte del pacchetto. Sono importanti per chi ritiene la realpolitik più importante dei diritti umani. Ma la vicenda delle statue fa parte del pacchetto, diciamo, della cosiddetta, non dico sottomissione, ma insomma del fatto che siamo sempre lì a dover chiedere quasi no, attenzione, non possiamo irritare l'uomo col turbante perché altrimenti ci leva un po' dei soldini, oppure si incazza e non ci fanno firmare i contrattini, ma dai, su. Allora, cosa è successo ieri alla Zanzara? Le frasi di Oliviero Toscani, eccole qui. A chi lo paragoneresti, Gasparri, secondo te? Cioè, forse qualcuno ha dentro lì a... come si chiama quel posto a Milano se sono ritardati? Come si chiama? Cottolengo. A Cottolengo. No, sì. Vabbè, questo no. È un Cottolengo. No. Ma sì, guarda lo sguardo. Ma no. Quando gira gli occhi. Tu dici, Gasparri è uno che al massimo ricorda un ritardato. Totalmente. Con tutto il rispetto dei ritardati, naturalmente. È logico, fra l'altro non vorrei insultare i ritardati. Beh, quello l'hai già fatto, ma comunque, No, ma non intendevo in quel modo lì, ma ti ringrazio di aver chiarito. No, io su Gasparri dissento totalmente, perché invece secondo me non è nemmeno così. Ma dice una cazzata dietro. Ma ragazzi, ha attaccato quello per l'utero in affitto, ha usato un'espressione che è la sua espressione, fa una battaglia contro l'adozione, contro l'utero in affitto. Politico non può parlare così. Vabbè, a te ti fa schifo Gasparri, questa è la realtà. No, cioè, non mi fa schifo, ma no. E lui dimostra che vuole fa schifo. Si fa schifo da solo. Sì, cioè, quando si guarda quando si guarda allo specchio in faccia la mattina, vomita. Che fa? Vomita, dici. Vomita. Allora, Maurizio Gasparri è con noi, eccolo qui. Voglio sapere da Gasparri se vuole portare in tribunale signor Toscani. Guardi, c'è un limite a tutto, perché io non ho mai detto nulla nei suoi confronti. Non è che mi sia molto simpatico per i suoi atteggiamenti, per il suo modo di proporre. Dopodiché, quello che ha detto, a me dispiace anche, francamente, che anche voi, insomma, potevate interdire un'azione di diffamazione. Io ho così detto, ma che dice? Io come non ha mi sentito? Stavo ascoltando perché ero in aula, però alcune persone, visto che siete ascoltati, anch'io spesso, diciamo, sono ospitato da voi e quindi non ho nessun astio nei vostri confronti, mi aspettavo una come dire, una reazione un po' più decisa. Vabbè, noi quando di telefonate e di messaggi, sì, ho capito che succedeva qualcosa. Però noi quando ascoltiamo certe cose, la nostra reazione è sempre quella di dire no, ma che stai dicendo, eccetera. Dopodiché sì, uno, sì, vi conosco, ho idea di come fare. Una volta che uno ha detto una cosa, ha detto una cosa, appunto. Però che dobbiamo dire, fare? Io per capire se si è chiamato Elton John per replicare. Lui non si capisce cosa c'entra, e quindi ovviamente gli farò un'azione giudiziaria, ma gliela farei, l'abbiamo deciso con l'avvocato, in sede civile, perché stavolta gli leviamo dei soldi. Cioè vuoi levare dei quattrini? No. Oggi il mio avvocato, che si chiama Renato Manzini, sta facendo delle misure per quello che si può apprendere in trasparenza, perché la nostra richiesta sarà proporzionale ai suoi soldi. Misura di che? Sul patrimonio di... Quanto c'hai? Lui deve fare... Uno, tu a un poveraccio che gli chiedi 1.000 euro oppure una rettifica a Toscani, chiederò cifre, poi le volverò in beneficenza ovviamente a favore delle famiglie, diciamo, di disagiate, no, Arcobaleno? Del Cottolengo magari, non lo so, potrebbe essere anche un'idea, visto che esiste, ha offeso anche, diciamo, chi fa assistenza, beneficenza. No, ma questo è vero, infatti un ricco che vive fuori, lontano da questi problemi, non conosce la sofferenza di chi va in un istituto, di chi ha problemi di disabilità, e quindi questo purtroppo poi lo imparerà invecchiando, quando avrà la fatica dell'invecchiamento capirà la sofferenza umana. Quindi sono rimasto sbigottito proprio della demenza che ha detto. Ma anche per noi è stata inaspettata come cosa, non è che l'abbiamo... Sì, ma voglio dire, c'è un limite a tutto, quindi sono francamente... No, lui vuole essere portato in tribunale, vuole essere portato... E avrà soddisfazione su questo... Non dubbio. Quindi poi gli ho chiesto la possibilità di esprimere la mia amarezza per queste frasi, visto che tanta gente ha ascoltato queste cose, siete una trasmissione seguita. No, ma infatti sei qui, giustamente volete replicare, noi non lo facciamo mai, voi, quindi, non lo facciamo mai di solito, ma non lo facciamo mai di solito, però c'è la... No, come dire, come molta gente non condivide, l'ha sentito da voi, quindi sono anche i vostri ascoltatori, quindi è anche un modo per... Come dire, i nostri ascoltatori hanno detto noi penso che sia un ritardato, cioè io me non lo penso. Quando faccio delle battute scherzose sul Palazzo, ma le facciamo in un clima qualcuno sta dicendo quando tu hai insultato la cicciona di Fedez, anche tu hai fatto un'offesa, no, diciamo, ma a parte il fatto che io in quel caso ero stato insultato, quindi io come facevo io a trovare una ragazza che non sapevo neanche che era minorenne, perché ma poi gli hai dato della cicciona, perché mi ha scritto un insulto a me, se no io come facevo su milioni di italiani ragionare? Poi io ho pure incontrato il padre e ci ho parlato poi con il padre, cioè in quel caso eri stato provocato e se no io come la trovavo? E poi non è che c'era scritto c'ho X anni, sono stato provocato dicendo che facevo schifo praticamente. Io ho risposto, poi mi sono incontrato col padre e ne abbiamo discusso a lungo, insomma, di questa cosa, e io ho convenuto che la cosa... lui ha convenuto che la figlia non doveva che anche se fatto un minorenne scrive senza sapere che ma non torniamo su quella roba lì, dai. Cruciani, uno ti scrive a te, sei un deficiente, tu mica lo sai che c'è scritto qualcosa. Io non rispondo mai, tu rispondi, io non rispondo mai. Io rispondo perché penso che... Vabbè, comunque tu dici... Comunque Toscani, insomma, sarà portato in tribunale, dici. Senza decidere, no, con una richiesta economica proporzionale. Tipo quanto gli vuoi dire? 10 milioni? Quanto gli vuoi chiedere? Ma non lo so, cifre. 1 milione, 2 milioni, 3 milioni? Cifre significative. Non so quanti soldi c'ha. Se ricco pagherà quanto è giusto per dare beneficenza, poi da parte mia, giustamente anche al Cottolengo, che non so se fa ancora attività, ma vuoi comunque essere uno dei destinatari, credo che sì. A centri per disabili, tu dici, a centri per disabili mentali anche. Lui si è riferito a quelli, cioè ti ha paragonato a un disabile mentale, ha detto che... È una persona, insomma, io pure non ho apprezzato mai le sue foto, gli animali che si congiungevano messi nella pubblicità. Vabbè, ma che c'è? Lui è un grande artista, dai, un grande professionista. Un grande artista, non mi piace, mi ha detto tutto quello che ha detto lui di me. Mi può non piacere un artista, a me ha pure. Ha detto che di fronte allo specchio devi vomitare, quando ti guardi. Sì, ha detto delle cose incredibili, ce l'ho tutte scritte, perché ieri sera le abbiamo trascritte, quindi ci abbiamo tutto lo stenografico, come si direbbe in Parlamento. Va bene, Maurizio. E l'avvocato scriverà quello che... In sede civile, perché vogliamo che paghi dei soldi, non mi interessa una condanna penale, non ti interessa la diffamazione. Vuoi il danè, vuoi che lui paghi, tiri fuori il quattrino. Così i nipoti lo racconteranno. Mio nonno dovette versare X soldi, sarà contento. Ciao. Però farà scrivere sulla lapide. Ciao, sulla lapide addirittura si farà scrivere sulla lapide. Pagò Gasparri, pagò Gasparri. Lui ha detto che i nipoti dovranno raccontare, mio nonno fece questo. Tra 1.000 anni i nipoti, i pronipoti, i plurinipoti, non scriveranno so sulla, sulla lapide i futur nipoti, diciamo così, toscani scriveranno nostro nonno dovete rimborsare e pagare Gasparri che diede in beneficenza a gente che soffriva. Ciao, presto, ciao. Ciao, ciao. Brucita. La Zanzara. Che non capisco voi in questo scempio, voi due, in questo scempio che fate in questa trasmissione che spero chiuda presto, perché dovete essere a ride perché avete i soldi, ma i soldi non sono tutto. Caro Parenzo, io farei una telefonatina se non è impegnato, ma credo non sia impegnato, anzi forse è impegnato è impegnato con per cercare di uscirne vivo da questa situazione, di uscirne con il signore che hanno licenziato la Rai per quella vicenda incredibile, Azzallini credo che si chiami, una cosa del genere, Azzallini. Bravo. Cioè questo dirigente della Rai che ha detto che era usanza della Rai anticipare l'orario del Capodanno durante la trasmissione della fine dell'anno per prendere qualche ascolto agli avversari televisivi. E per questo è stato licenziato, perché ha danneggiato l'immagine dell'azienda. Ora, naturalmente credo che inizieranno i ricorsi, eccetera, eccetera. Ma hanno trovato il capro espiatorio delle cose di Capodanno, che non potevano condannare nessuno per la vicenda della bestemmia, perché quello era un service che gestiva tutto. Dunque, non possono cacciare i capoccia della struttura che gestiva la vicenda della bestemmia, gli SMS che parlavano. Fanno fuori uno che ha deciso, perché era prassi, almeno così ci ha spiegato, e non c'è motivo perché non sia così, che era prassi anticipare di 40 secondi, ma poi chi se ne frega? Cioè, ma che uno dice sono ingannati i telespettatori, ma i telespettatori se ne sbattono i coglioni. Cioè, non è una convenzione quella roba qui. Anticipavano per grattare qualche ascolto. È contestabile, per carità, ma insomma adesso non è, uno può essere licenziato perché beh, poi c'è la roba della bestemmia probabilmente, no, ma non c'entra niente pure quello. Comunque questo qua si chiama non c'entra niente lui con la bestemmia, beh, essendo lui il capo di quella struttura, non credo che sia quello è per l'intervista che ha fatto se dopo. Se è solo per l'orario siamo alla follia. Lui ha detto una cosa, l'orario era una prassi aziendale che e lo dimostrerai, verrà reintegrato. Comunque chiamiamolo, vediamo un po' se vuole parlare. Pronto? Azzallini, buonasera. Chi è? Sono Cruciani, lei non può parlare, immagino, no? È dall'avvocato. Sono dall'avvocato in questo momento. Va bene. Sappia che noi siamo con lei, però. E io la ringrazio per questo. Grazie di cuore. Io sono con lei, sono Parenzo io. Grazie, arrivederci. Cioè, non è possibile. Quando è che può parlare? Paghi lei per tutti. Sono dall'avvocato, vi chiedo veramente scusa. Ma quando è che potrà parlare, secondo lei? Dopo che avrò parlato con l'avvocato. Con l'avvocato, Siamo con lei. Siamo pronti a pagare noi le spese legali. Viva Azzallini. Arrivederci. Viva Azzallini. Viva Azzallini sempre. Grazie. Arrivederci. Lorenzo Macerata, vai. Sì, Cruciani, buonasera. Io volevo tornare un minuto sul discorso di Roani. Sì. Allora, degli italiani c'è poco da dire, perché si sa che facciamo ridere e facciamo schifo su tutto, pur di fare degli affari, delle robe, eccetera, rinunciando e facendo abiura di tutto, di cultura e quant'altro. Perché arriva Gheddafi, mettiamo i cammelli, arriva questo copriamo le statue. Ma non è di questo che voglio parlare, perché oramai è così. Se fosse venuto uno del Centro Africa, l'estate gli avremmo messo l'orologio al collo e l'occhio sul naso. Ma è così. Allora, perché siamo fatti così. Se viene un tedesco ci vestiamo da tedeschi. Facciamo questo noi. E questo. Manca la catena di comando. Manca la spina dorsale. Può essere, ma sì. di questo io mi meraviglio poco, perché ripeto, ho 65 anni e conosco la allora? Stirpe italica. Mi meraviglio invece del Papa, mi meraviglio, perché quando questo è andato, e nessuno ne ha fatto riferimento, quando è andato dal Papa, e questo tutto imbettito, il nostro invece è sempre disponibile, il Papa è una brava persona, con umiltà, eccetera, alla fine gli chiede, Santità, preghi per me. ma cosa cazzo devo pregare per te se giustizi impicchi 2500 persone all'anno? È un altro problema, questo è un problema della Santa Sede. L'ascoltatore ha ragione al 100%, ovviamente. Però se tu decidi di far venire qui uno, non è per poi dirgli in faccia ammazzi 2500 persone, vattene a fare in culo. Se tu lo ricevi, in qualche modo lo legittimi. Cioè, allora, se lo legittimi, poi non puoi rompere i coglioni. Poi, per carità, c'è la diplomazia, quello che ti pare. Dunque, no, si parla dei diritti umani solamente in non so quale sedi. Però se quello va dal Papa, sembra che il Papa l'ha voluto. E poi non è che in faccia gli può dire: no, però amico mio, sei uno stronzo perché ammazzi 2500 persone ogni anno. Non è così, per cui è sbagliato forse. No, è tutto sbagliato sin dall'inizio. Ciao. Allora, caro Parenzo, ti presento una persona perché l'Occidente, sì, l'Occidente rispetto all'Iran, per carità, non è che certe cose non succedono in Iran, magari succedono di nascosto, è anche questo. Cioè, esistono delle figure professionali, sì, per motivi che sono molto chiari, che sono quelli dei soldi. Ci sono persone che per soldi, come sai, vendono il proprio corpo. Cioè, queste persone che fanno, come sai, le prostitute. Boh, noi abbiamo qui un uomo che fa, non so come definirlo, escort o no. Sì. Come ti definisci, Francesco? Puoi dire anche escort. Buonasera Cruciale, buonasera Parenzo, buonasera a tutti. Ciao, buonasera, Francesco. Ci sono persone che sì, vendono il corpo per soldi, ma ci sono anche persone che vendono il cervello per pochi soldi. Per cui a volte la scelta è personale, ma non vuol dire che sia meno dignitosa di altre. No, ma è importante sottolineare. Con me sfondi una porta aperta, perché io penso che tu in questo caso hai scelto di fare l'escort, diciamo, di fare il prostituto. Lo hai scelto pure essendo laureato, se non mi sbaglio, no? Sì, sì, io sono laureato in giurisprudenza, ho il titolo di avvocato, ma ho scelto di non esercitare perché non... Ma che volevi fare all'inizio? Ti sei messo a fare... Personali. Sì, ma ti sei messo a fare qualche cosa, l'avvocato? Hai iniziato a fare qualcosa o no? No, in realtà non ho mai esercitato l'avvocato. Vabbè, sarà comunque a suo modo... Vabbè, sarà Francesco, comunque a suo modo un principe del foro. Cos'è che non possiamo dire? Il cognome lo possiamo dire? No, puoi dire il nome, il cognome non è necessario. Ok, gli anni, possiamo dire gli anni? Gli anni sui 30. Sui 30 anni. Non ho capito perché tutto questo mistero, se è contento della professione che fa, non capisco cosa sia di miserabile. Perché questo... non puoi dire il cognome? Se lei fosse un avvocato, l'avvocato Francesco direbbe, visto che lei ha fatto questa scelta e nessuno l'ha costretta, non capisco perché... Ma questo io non imbarazzo. Capisco il motivo per cui devo dirti il mio cognome per radio. Perché è un lavoro come un altro, no? Il suo, quindi... Ma il mio cognome non è strumentale ai fini dell'intervista, ai fini delle notizie. No, vabbè, adesso questo qua, strumentale. Questo già dimostra l'imbarazzo con cui lei affronta la sua professione. No, stai calmo, Parenzo. Tu pensi che queste qua siano tutte cose miserabili? Io penso invece che siano legittime. Ed è legittimo che una persona. È legittimo che una persona. Ho detto che è lui che è in imbarazzo nel non dire il cognome, perché evidentemente pensa di fare un lavoro socialmente poco rispettabile. Non è utile alla mia attività fare il mio cognome. Ah, ho capito. Non è utile alla sua attività, uno potrà decidere o no. Io lo però, scusa, ci mancherebbe. Posso anche chiedertelo, cioè non è che non è funzionale, perché uno se dice nome e cognome dice mi chiamo Francesco eccetera eccetera, faccio l'escort. Comunque vabbè, non lo vuoi dire, chi se ne frega. La cosa che voglio capire è un'altra. No. La sua famiglia sa che lei fa questo lavoro? La mia famiglia sa che faccio questo lavoro. Beh, sei omosessuale? Sono bisessuale. Sei bisessuale, cioè vai come guadagni soprattutto, con gli uomini o con le donne? Beh, chiaramente la clientela della prostituzione maschile è composta prevalentemente da uomini, molte coppie e poche donne. Dunque prevalentemente uomini, diciamo. Prevalentemente uomini. Si può dire quanto guadagni oppure anche questo è un mistero? Ah, sicuramente per fare l'escort in luogo dell'avvocato guadagno più di un avvocato. Il quanto non è... Tutto in nero ovviamente. Prego? Tutto in nero, ovviamente. Beh, fin quando non ci sarà una legge che regolamenti anche la tassazione della... Cioè, tu la vorresti questa legge? Cioè, tu vorresti essere vorresti che ci fosse una nuova professione, cioè dire il... Come FBAL che abbiamo ospitato... Io vorrei che la prostituzione fosse sicuramente regolamentata. E dunque tu vorresti pagare le tasse? Non solamente tassata, perché la tassazione è una parte necessaria della regolamentazione. Ma la regolamentazione di un'attività non si deve poi esaurire nella mera tassazione. Senti un attimo, ma tu sei stato coinvolto in una vicenda con un prete che ti ha fatto credere di essere un'altra persona, giusto? In realtà era un prete che inizialmente si spacciava per un magistrato o almeno per un cliente facoltoso che non affermava di essere un prete. E quanti soldi ha speso questo qua con te, questo prete? Il problema non è quanti soldi ha speso con me, ma piuttosto quanti ne ha spesi in generale tra escort, quindi non solo con la mia compagnia, perché spesso si trattava di situazioni di orgia, tra alberghi e ristoranti di lusso, regali di lusso e droga. Di dov'era questo prete? Di dov'era questo prete detto Don Euro? Non mi ricordo la vicenda. Dove era? Carrara, no? Il prete è soprannominato Don Euro dagli stessi fedeli della sua parrocchia, che poi insomma hanno... Don Euro, stupendo. Don Euro, perché faceva continue richieste di denaro. È un prete della provincia di Massa Carrara. Ma scusa, con quanti preti sei andato? Cioè, quanti ti hanno pagato, più o meno? Allora, io ti posso dire che di quelli di cui io ero a conoscenza del loro stato di prete, penso qualche decina. Probabilmente ce ne saranno altri, sì. Cioè, ufficialmente gente che si è presentata come prete, una decina, diciamo. Esatto. In quanti anni? Di cui ho intuito che lo fossero. Sì, in quanti anni? In quattro anni, cioè un paio all'anno ti capitano dei preti in mezzo. Ultimamente dal servizio delle Iene è difficile che qualche prete scelga di... Sì, è vero. Sì, certo. Tu sei andato in un servizio delle Iene qualche anno fa, no? No, sono andato nel servizio alle Iene due mesi fa. Sì. Adesso, tra l'altro, è stata girata la seconda parte, sì, dove sono state raccolte ulteriori testimonianze questa volta. Senti, ma tu ricevi richieste strane, le richieste più strane, assurde, cioè sesso non protetto o altre cose? Cioè, fortunatamente il sesso non protetto, le persone che pagano per fare sesso sono generalmente persone... che hanno una famiglia, che hanno una vita, per cui per primi la vogliono fare per forza col sesso con la protezione, certo. Esatto, fortunatamente il sesso non protetto purtroppo è più diffuso tra le persone in contatto. Senti, ma io non l'ho capito, Parenzo, forse è curioso di sapere una cosa, cioè tu pensi di poter fare tutta la vita così, cioè di poter fare l'escort tutta la vita, cioè di poter fare certamente no, ma questo non e che vuoi fare? Per una questione esclusivamente anagrafica, ma anche e soprattutto per una questione di logorio psicologico, relazionale, sociale. Ma ce l'hai una fidanzata o no? Prego? Ce l'hai un fidanzato, una fidanzata, dato che sei bisex? No, non ce l'ho. Non ce la puoi avere, diciamo. Niente. Per una questione di grave difficoltà o addirittura di impossibilità. Ma non ti chiedi ogni tanto... Se gli piace così, amico mio, ma che vuoi fare? Gli piace così, lascia che faccia così. Ma non ti chiedi ogni tanto chi te lo fa fare? Beh, me lo chiedo, ma probabilmente me lo chiederei anche se facessi lo scaricatore di porto e dovessi svegliarmi alle 5. Cioè, dici, alla fine non è così, ma... l'avvocato sì. e dovessi... Cioè, una professione come un'altra. Tu la consideri una professione come un'altra. Non mi parla da come ne parla, però... Io la considero un'attività... come un'altra. Sicuramente diversa dalle altre, ma dato che è l'attività che mi consente di... campare bene, di campare da parte e di vivere e di essere indipendente, anziché fare il brillante avvocato, fare il brillante escort, perché fare il brillante avvocato chiaramente costa forse più fatica, più impegno. Più fatica, quello fatica come un matto, altro che, cioè quello si fa un mazzo così, scusa. Se si diverte e gli piace così, benissimo, chi se ne frega. Cioè, questa è una considerazione assolutamente stupida, perché nessuna persona che si prostituisce per libidine, mai. E allora perché si prostituisce? Cioè la libidine non è... per soldi. Stare se gli piace guadagnare, ma infatti io non dico nulla, se gli piace guadagnare tanti soldi in questo modo, anziché diventare un'eccellenza in un altro mondo, quello della forense, bene, venga per lui, ottimo, chi se ne frega. E i calciatori invece sono tuoi clienti? Ho avuto uno sportivo, non di serie A, ma ho avuto uno sportivo e più di una volta invece mi è capitato qualche tecnico. Allenatore? Sì. Ma dunque di una certa età? Beh, chiaramente le persone che si rivolgono a te? Persone a pagamento non sono sempre, o non, in genere non sono giovanissime. Vabbè ragazzi, nuove professioni temporanee, quella dell'escort a tutto campo, tra giocatori, preti, eccetera eccetera. Avete sentito la testimonianza di Francesco. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani, 18:30. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Allah, andate al bar. Allah, andate al bar. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo dica a voce alta.